si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Prossimo anno togliamo Tasi e IMU per tutti, nel senso che non è possibile continuare questo giocattolino dove la tassa sulla casa l'abbiamo messa tolta. Qualcuno dice: ah, ma se togli la tassa sulla casa sei come Berlusconi. No, Berlusconi è quello che l'ha anche rimessa la tassa sulla casa votandola insieme a Monti. Non è questo il punto. Una cosa non è se l'ha fatta Tizio o Caio, è se è giusto o non è giusto. Non voglio sembrare provocatorio o polemico, ma ritengo che il berlusconismo, e per alcuni aspetti anche l'anti-berlusconismo, abbia fatto mettere il tasto pausa al dibattito italiano. E per 20 anni noi abbiamo perso occasioni clamorose e oggi noi abbiamo il compito di rimetterci a correre nonostante la Seconda Repubblica. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati col Si può fare, 18, 20 e 30. Buonasera ad Alessio Maurizi, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. La pagina Facebook Si può fare, Radio 24, l'account su Twitter Si può fare 24. Ricominciamo! Sono finite le vacanze per Matteo Renzi e sono ricominciate le promesse, a cominciare da quella sull'IMU. Via l'IMU, via la Tasi, via tutto. L'anno prossimo però. Sentiamo ancora Renzi che sull'immigrazione decide di smarcarsi definitivamente da Salvini, da chi protesta contro l'invasione, anche se non dà risposte concrete ai problemi. A Bresso, per esempio, ci sono centinaia di migrati che sono fuori controllo, ma sentiamo Renzi. Rispetto al tema dell'immigrazione, noi non cederemo mai a un messaggio che vuole far diventare l'Italia una terra della paura. Il provincialismo della paura non vincerà. Noi possiamo anche perdere 3 voti, ma prima salviamo le vite umane e poi ci preoccupiamo di come riuscire a dare un futuro a quella gente. Non è buonismo, è umanità. Sono secoli di civiltà ai quali non rinuncio per 3 voti. I'm from Ghana, so many people are here, all Africa. Otto persone. We need the document to live here because we suffer, try to help us. Non rinuncio all'accoglienza, all'umanità, alla nostra cultura dell'accoglienza, dice Renzi, però avete sentito la voce di uno di questi immigrati richiedenti diritto asilo a Bresso, un campo della Croce Rossa dove devono esserci alcune decine di persone, ce ne sono centinaia. Il sindaco del PD, tra poco lo sentiremo, dice: siamo al collasso. Ricominciamo! Try to help us, the government of Italy. Try to help us. We are in sleeping bad condition. Try to help us. We are dying. Io penso che Alfano, come Renzi, abbiano sottovalutato il tema dell'immigrazione, che è di portata epocale e non c'è dubbio. E mi pare che questo governo non faccia accordi con l'Europa, non faccia accordi internazionali. E allora poi ancora voci, così diciamo in libera uscita, sul caso dei funerali di Casa Monica a Roma. Sgarbi, Salvini e neoassessore a Roma Esposito. L'unico da arrestare si chiama Alfano. Ecco. Alfano, uno che spende i soldi dello Stato per una bufala come questa e usa gli aerei di Stato e ha metà partito che è pieno di inquisiti, quello è pericoloso. Non i Casa Monica. Gli aerei di Stato di cui parla il fatto di Alfano sono aerei pagati da noi. Il funerale del boss se l'è pagato il boss, che non è un boss. Il problema di Marino non è dov'è in vacanza. Io quest'estate ho incontrato tanti cittadini di Roma in giro per l'Italia che mi hanno detto: io pagherei di tasca mia per lasciarlo sempre in vacanza Marino. Quindi il problema non è se il sindaco è o non è in vacanza. Il problema è una città che si sta spegnendo giorno dopo giorno. questa polemica, peraltro legittima dal punto di vista giornalistico, però molto forzata. Ignazio Marino è rimasto a Roma fino al giorno precedente a Ferragosto e era oggettivamente cotto, come dico io, ce lo ha detto, dice: io sono bisogno di staccare 15 giorni. 800 24 00 24. L'ultima voce che avete sentito era quella del neo assessore Esposito, dopo il rimpasto annunciato prima della pausa estiva dal sindaco Marino, che parole sue diceva: Marino era cotto e aveva bisogno delle vacanze, era cotto. Se lo dice lui che lo conosce bene, evidentemente deve essere vero. Ci sono delle situazioni nelle quali un sindaco, io credo, come è successo adesso a Roma con il caso dei funerali di Casa Monica, o anche come succederà giovedì quando il Consiglio dei Ministri dovrà decidere sul commissariamento di Roma per le note vicende di Mafia Capitale, un sindaco deve essere presente, anche se non è colpa sua, anche se non c'entra nulla coi funerali, anche se ha fatto tutto quello che doveva fare. Sei il sindaco per 4 anni e le vacanze forse le devi rimandare. 800 24 00 24. Ricordate le centinaia di migliaia di emendamenti annunciati da Calderoli, dal senatore Calderoli della Lega? Ebbene, sulla riforma del Senato, per fare l'ostruzionismo, per bloccare la riforma del Senato, ecco, Calderoli ha detto: potrei anche ritirarli tutti in cambio della grazia a chi? A quell'imprenditore Monella che, sentite, mi ha scritto che in settimana verrà trasmesso tutto al Quirinale. Quindi spero che se questo avverrà questa settimana, lei è pronto a ritirare gli emendamenti sulla riforma? Meno 4 se ci fosse questo gesto di disponibilità, sì. Poi tutto un altro discorso, poi in aula ne lascio 4 e ritiro gli altri 610.289.999. Anche se è sposata con un uomo di sinistra, vuol tornare alle origini. Proprio mentre sembra chiusa la parabola berlusconiana, lei si sta riavvicinando al vecchio leader. Nunzia De Girolamo, buonasera. Buonasera a lei. Allora, appena da poco annunciato l'addio, infatti per questo abbiamo messo insieme a te non ci sto più, al nuovo centrodestra. Intanto è ufficiale questo addio oppure mi si nota di più se vengo, se resto, quelle cose lì? No, è ufficiale, però chiaramente non ho ancora parlato con nessuno nel mio partito e poi comunicherò la cosa al Presidente della Camera e lì, come si fa nelle istituzioni, al Presidente della Camera e all'Assemblea parlamentare sapranno dove sto andando. Ma però il contrasto nasce dal fatto che io avevo fondato NCD insieme a Alfano e gli altri miei amici, convinti che ci potesse essere una nuova stagione di centrodestra, un centrodestra nuovo, moderno, europeo, che facesse appunto le riforme, ma non centrodestra che sta diventando un centrosinistra. Addirittura nella mia regione il coordinatore annuncia che partecipa alle primarie con il PD. Io sinceramente non sono né renziana né della sinistra. Però è buffa una cosa, De Girolamo, che mentre mezzo PD per esempio dice che Renzi è tutto tranne che di sinistra, lei se ne vuole andare perché dice che Alfano è troppo di sinistra. Non ci si capisce più nulla. Diciamo che non si capisce più nulla, su questo condivido, che ormai non si capisce più nulla. Però Renzi è il segretario del Partito Democratico, non del Popolo della Libertà o di Forza Italia. E nel suo partito ci sono persone che vengono dalla storia del Partito Democratico, da Veltroni. Quindi Renzi è di sinistra, cioè nonostante tutto quello che si dice. Poi è furbo che cerca di parlare alla pancia degli elettori moderati di centrodestra, c'è riuscito alle europee, non c'è riuscito alle regionali e non credo che ci riuscirà alle politiche, perché al di là delle tante promesse fatte come quelle sulla casa delle ultime ore e tante altre nel passato, non mi pare che stia dando risposte agli elettori del centrodestra né tantomeno agli italiani, perché la crisi non mi sembra superata affatto. Basta farsi un giro per le strade delle province d'Italia, i negozi chiudono e quindi le attività commerciali, le piccole e medie imprese sono in difficoltà e le famiglie non arrivano alla fine del mese. Sì. Questa è l'Italia di Renzi, non un'altra. Però secondo Renzi neanche l'Italia di Berlusconi ha fatto fare progressi agli italiani. Oggi ha detto 20 anni di berlusconismo, ma anche di anti-berlusconismo, hanno bloccato l'Italia su questa questione ideologica, eccetera, eccetera. L'Italia è bloccata. Lei come la vede? Questi 20 anni invece, 20 anni... condivisi comunque tra berlusconismo e anti-berlusconismo, hanno fatto fare dei progressi all'Italia o no? Onestamente credo di sì, e mi pare che Matteo Renzi non la pensasse così quando ha fatto il patto del Nazareno, e quel patto del Nazareno gli serviva per assegnare i voti sulle riforme e per governare, e mi pare che non si faccia nessuno scrupolo a governare con l'ex segretario del PDL berlusconiano nonché ministro della giustizia che è Angelino Alfano, per cui se non condivide la storia di Berlusconi mi sembra un po' una contraddizione che poi governi con i voti di Berlusconi. Beh, non governa con i voti di Berlusconi, non ha vinto le elezioni, i voti di Berlusconi sono quelli, però il che governo si regge con i voti del nuovo centrodestra, non con quelli del PDL, che sono stati eletti con me compresa con i voti del PDL e di Berlusconi. Non mi pare che noi siamo stati eletti sotto il simbolo di NCD, ma lei che si sta appunto riavvicinando a Forza Italia e a Berlusconi, quali sono i progressi che ha fatto l'Italia sotto il governo Berlusconi, per esempio? Guarda, innanzitutto ad esempio oggi noi abbiamo un grande dramma epocale che è l'immigrazione, che non abbiamo avuto durante il governo Berlusconi Lega, diciamo, perché abbiamo gestito benissimo quella fase, sicuramente c'era una condizione, diciamo, in tutto il mondo un po' diversa prima delle primavere arabe, ma comunque ci hanno criticato quando trattavamo con la Libia, invece le trattative con la Libia ci hanno portato diversi risultati. Devo dire che durante il governo Berlusconi non avevamo i problemi in Europa che si hanno oggi. Però l'intervento in Libia per mettere giù Gheddafi fu fatto. Diciamo che Berlusconi all'epoca si è piegato all'idea e all'iniziativa del solito potere asso e del solito asse franco-tedesco. Però quella è una cosa che ha sbagliato Berlusconi, o no? Ma Berlusconi è il primo che ha avuto difficoltà allora, quando gli fu imposto, e lei sa bene da chi e da che cosa, di fare quella scelta, fu il primo che la fece con grande difficoltà. Ma non avrebbe potuto smarcarsi e non farla quella scelta, se era così sbagliata? Ma non credo che al momento lui potesse fare diversamente. In quel momento storico era il Presidente del Consiglio dell'Italia, c'erano diverse condizioni che gli imponevano di scegliere quella strada. D'altra parte Berlusconi è stato attaccato qualsiasi cosa lui avesse fatto. Mi pare che l'Italia stava un po' meglio. Io non nego. Però scusi, mi sta dicendo che differente. Berlusconi si faceva in qualche modo guidare dalla Francia e dalla Germania, aveva i pieni poteri sull'Italia? No, lei adesso sta tentando di mettermi in bocca perché le fa comodo così. Berlusconi aveva pieni poteri sull'Italia, però le ricordo che Mario Draghi all'epoca non c'era, e che l'operazione che è stata fatta per sua ammissione in commissione bilancio durante un'audizione di recente, prima non era possibile in Europa e quindi non era possibile tenere lo spread sotto controllo. Se Mario Draghi avesse tenuto lo spread sotto controllo e fosse stato il presidente della BCE allora e avesse fatto le operazioni che è riuscita a fare oggi attraverso la BCE, probabilmente l'Italia non sarebbe andata in difficoltà e non avrebbero parlato tutti di spread fino a convincere Berlusconi attraverso il capo dello Stato e le forze dell'opposizione a lasciare il governo per dare spazio a Mario Monti, che non mi sembra che sia stata una grande soluzione per l'Italia, onestamente. Facciamo una brevissima pausa. Non era tanti problemi. Sì. Che abbiamo avuto sono determinati proprio da quel governo tecnico che invece di portare risultati al nostro paese ha creato diversi danni. Adesso ci arriviamo, facciamo una brevissima pausa, poi torniamo con Nunzia Del Girolamo, parliamo della cena di Ferragosto con Berlusconi, l'immigrazione, le unioni civili, il riavvicinamento con gli ex compagni tra virgolette di Forza Italia. Si può fare l'attualità anche d'estate. Non gioco più, ne vado, non gioco più. Di nuovo buonasera, Nunzia De Girolamo. Non gioco più, almeno non nell'NCD. è pronto quindi un riavvicinamento con Forza Italia. C'è stata questa cena di Ferragosto a Villa Certosa con Berlusconi? Peccato che la politica non è un gioco, perché chi ci gioca, e ne sono tanti, gioca con le vite delle persone. Ma ha fatto bene a scegliere questa canzone, perché effettivamente per moltissimi miei colleghi è un gioco. Sì, c'è stata questa cena con Berlusconi, ma come io ho avuto rapporti con Berlusconi in tutto l'anno e mezzo, diciamo che siamo stati in NCD, durante il periodo che abbiamo fondato NCD, non ho mai smesso di sentire o vedere il presidente Berlusconi. Lo ringrazio molto per l'invito di Ferragosto, è stata una bellissima serata. Ma ha segnato veramente un riavvicinamento, c'è un nuovo cerchio magico? Ma non è mai esistito un cerchio magico. Berlusconi è Forza Italia e Berlusconi, ed è lui che decide se c'è o non c'è il cerchio magico, e che probabilmente diciamo fa le varie strategie in base alle sue scelte, non le scelte di qualcun altro. Devo dire che io non mi sono mai allontanata personalmente, affettivamente, da Silvio Berlusconi, mi sono sempre confrontata in questo anno con lui, per cui non si tratta di un riavvicinamento ma di una piacevole serata, durante la quale ovviamente c'è stata anche l'occasione di parlare di politica, dei problemi che riguardano l'Italia, appunto, come lei ricordava, la Libia, l'immigrazione, la crisi economica, e chiaramente Berlusconi, che è innanzitutto un cittadino italiano e anche un imprenditore, è preoccupato della situazione che stiamo vivendo. Come pensa di poter essere accolta, qualora questo riavvicinamento con Forza Italia dovesse concretizzarsi, dai suoi ex colleghi di partito, ex compagni tra virgolette ovviamente di Forza Italia, che quando ve ne siete andati vi hanno accusato di tradimento, lei, Alfano, Lupi, eccetera? Devo dire che io non ho mai ricevuto attacchi dai miei amici di Forza Italia, né tantomeno io ho mai utilizzato parole, diciamo, poco riguardose nei confronti sia di Berlusconi, a cui dovremmo essere tutti molto grati, perché se siamo in Parlamento e facciamo politica è grazie ai suoi voti. Adesso è molto facile dire andiamo via, facciamo il partito della nazione perché siamo in un momento di difficoltà. Una bella classe dirigente nei momenti di difficoltà si rimborca le maniche e ricostruisce il centrodestra, mentre altri scelgono la scorciatoia di Renzi perché adesso va più di moda e chiaramente ha un certo consenso. Detto questo, non credo che... Non so, una come la Mussolini, lei va d'accordo con una come Alessandra Mussolini? Guardi, parliamo di politica, non di gossip né di show. No, di gossip. Lei sta nel partito nel quale forse lei vuole rientrare, no? Ma quindi dovrete convivere. Il partito, io posso convivere con chiunque, quando... la politica è un servizio. Se la politica poi è ostentazione di se stessi, è uno show mediatico. Nel caso della Mussolini è questo? Può essere questo? Ma no, io penso che la Mussolini si debba preoccupare del suo territorio, di fare politica, di servizio per la collettività, come devo fare io e tutti gli altri. Certo, per me non è un problema, né lei né nessun altro. Senta, ma invece il governo Renzi quanto durerà, quanto potrà durare secondo lei? Perché se lei abbandona, la minoranza del PD potrebbe anche prima o poi togliere la fiducia al governo, o no? Ma io credo che il governo durerà. Io penso che non durerà almeno fino al 2017, e penso allo stesso tempo che se Renzi è realmente un leader, è intelligente ed è consapevole dei suoi limiti e delle sue anche virtù, dovrebbe mediare. L'appoggio che chiede sulle riforme istituzionali richiedono una mediazione, quindi se chiedo il voto per la riforma della Costituzione devo dare in cambio il premio di maggioranza sulla legge elettorale, altrimenti è un'imposizione delle sue idee, e appunto, come le ricordavo prima, Matteo Renzi, come Letta, come Monti, non sono passati per le urne per il consenso popolare, non c'è un programma che hanno votato i cittadini, lo ha scelto il Parlamento, cosa che io ritengo un errore. Guardi il caso di Tsipras, che comunque è lontanissimo da me culturalmente, ideologicamente, da tutti i punti di vista, però oggi si rimette al voto del popolo e dice: ditemi se ho fatto bene le mie scelte oppure no. Questo è coraggio, chapeau. Noi invece in Italia abbiamo tre governi non eletti dal popolo ma nominati appunto dal Parlamento, e credo che questo, visto che non è frutto di una vittoria elettorale e quindi del giudizio dei cittadini, quindi, dovrebbe portare più umiltà in Matteo Renzi o in chiunque. Meglio governo. Tsipras di Renzi in questo momento? No, nessuno dei due. Cambio la palla. Però l'ha detto. Poco fa l'ha detto. No, senta, ha invece detto sul Tsipras, almeno scegli di andare al voto. cosa che in passato Renzi, nel momento in cui è caduto Letta, poteva benissimo fare, sarebbe stato più forte, invece ha deciso di andare a governare. Quindi su questo aspetto della democrazia in senso stretto, cioè del fatto di ricorrere al voto, il Tsipras è stato più corretto di Renzi, più coraggioso. Senta, invece sul tema dell'immigrazione, lei con chi sta? Con Salvini o con Monsignor Galantino? Lei fa parte di un'area politica di centro cattolico, c'è stata un'aspra polemica quest'estate tra i due. Sì, io rispetto le opinioni di tutti, così come le scelte. Penso che la Chiesa debba fare la Chiesa, la politica la politica. E in generale non sono per le generalizzazioni. Galantino ha tutto il diritto di esprimere la sua opinione, così come ce l'ha Salvini. Poi non si può dire che tutta la politica è corrotta, perché non bisogna generalizzare. Come se io dicessi, perché c'è stato nella mia città un caso di pedofilia, che tutti sono pedofili, magari relativa alla Chiesa. Bisogna scindere i politici corrotti da quelli non corrotti, e magari preti che non sono esattamente un esempio per le anime da quelli che invece sono una grande guida per la Chiesa e per le comunità. Le polemiche inutili le eviterei. Se lei fosse, come è stata fino a poco tempo fa, al governo, ascolterebbe di più Galantino o Salvini sull'immigrazione? Ascolterei tutti in generale, cercando di evitare condizionamenti populistici, ecco. Io credo che noi abbiamo in questo paese il dovere dell'accoglienza, dell'integrazione, di salvare le vite umane, ma anche di mettere un tetto, perché in Italia i centri di accoglienza sono diventati centri permanenti, dove restano a vita, dove l'identificazione è relativa, non c'è un controllo dei flussi. Infatti ne parleremo anche tra poco, lo dico anche agli ascoltatori, anche del caso di Bresso, e quindi su questo c'è molto da fare sicuramente, però mi sembra di capire che... Io penso che l'errore di Renzi sia stato sottovalutare la portata del fenomeno immigratorio, che è obiettivamente un'invasione, e credo che avendola sottovalutata ha sbagliato Renzi a non approfittare del semestre europeo per porre questa questione in Europa in maniera molto forte. Noi poi abbiamo la Mogherini, è un'altra rappresentante, è italiana, e non mi pare che siano stati stretti tutti questi accordi internazionali o europei per salvare l'Italia da questa fase così difficile, perché poi a pagarne le spese sono gli italiani, e nei centri di accoglienza lasciamo gli immigrati a morire di seme, di fame o di sete, e stiamo invece dando da mangiare alle cooperative, come dimostrano le tante indagini. Ultimo argomento è quello delle unioni civili. Il suo, appunto, a questo punto ex partito è contrario. Forza Italia invece, dove lei probabilmente approderà, ha diverse aperture. Il governo farà una proposta di legge, lei come voterà? A favore? Guardi, io l'ho detto quando ero in Forza Italia da ragazzina nel movimento giovanile, l'ho detto in NCD e lo ridirò domani, che su questo tema ho una visione laica dello Stato proprio, e penso che sia giusto riconoscere i diritti alle coppie omosessuali. L'ho detto anche quando ero in NCD ed ero minoranza insieme a Cicchitto rispetto ai miei colleghi. Penso che un compagno, una compagna, appunto, di una coppia omosessuale abbia il diritto di andare a trovare il proprio fidanzato, la propria fidanzata, il proprio compagno in ospedale, che abbia diritto alla reversibilità, che bisogna riconoscere a loro i diritti che delle coppie eterosessuali. È una questione di civiltà, onestamente. Poi sono contraria ad utilizzare la parola matrimonio, perché è inutile. Ma non sarà utilizzata, questa. Giuridico, mi sembra mi sembra abbastanza chiaro. Giuridico. Senta, gliel'avranno chiesto mille volte. Sono però contrario all'adozione dei bambini. Ok, gliel'avranno chiesto mille volte, ma glielo devo chiedere anch'io. Con suo marito parla di politica? No, perché altrimenti zero proprio. Quindi il lavoro resta fuori di casa, sempre. Sì, anche perché per fortuna dentro casa abbiamo anche altri argomenti. Altre cose, giustamente. Ma lui non c'era alla famosa cena a Villa Certosa, vero? O c'era? No, non c'era. Non c'era perché era un momento mio, sono andata con mia sorella, che era con me in vacanza, che conosce Berlusconi da tantissimi anni, e ovviamente non era un ambiente di mio marito. Era un mio ambiente, io non sarei andata alla cena magari sua con D'Alema. Alla festa dell'unità. Niente festa dell'unità per Nunzia Di Girolamo. Niente festa dell'unità. Va bene. Sì, a parlare di centrodestra, sì. Ma sì, sei invitata a parlare di centrodestra, ma non a cena con gli amici del marito. ci sono già andata alla festa dell'unità. A cena con gli amici del marito? No, a parlare di politica. Ah, ecco, va bene. Grazie, buona serata. Buona lei, serata. Buona serata, arrivederci. 800 24 00 24, ci risentiamo tra pochissimo dopo la borsa. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Anche questa sera un premio messo a disposizione da 24 Ore Cultura, in particolare la mini guida di Expo a chi risponde a questa domanda. Parliamo del caso Balotelli, oggi la presentazione, insomma, le visite mediche di rito, il ritorno, la seconda chance al Milan. Diamo una mano a Super Mario e dovete indicarci chi potrebbe essere il compagno ideale di stanza di Mario Balotelli per rimettere un po' in riga, per fare in modo che questa ultima chance non vada sprecata. Che ne so, per esempio calciatori, ex calciatori, Baresi, Maldini, oppure un milanista come Salvini potrebbe essere un politico, oppure Briatore potrebbe essere un compagno di stanza per Balotelli, visto che ha aiutato, ha fatto nascere diversi campioni sportivi, a cominciare da Schumacher, che ne so, oppure mi viene in mente tra i politici il compianto Andreotti avrebbe potuto sicuramente insegnare a Balotelli a parlare un po' di meno. 800 24 00 24, andiamo con Giulio che chiama da Milano. Buonasera. Buonasera, grazie per avermi fatto intervenire, è la prima volta, come si può fare. Bene. Volevo intervenire riguardo all'immigrazione. Sì. Allora, il problema è gigantesco e secondo me molte persone non si rendono conto. Io sono scappato dall'Italia proprio per l'immigrazione. E dove sei andato, Giulio? In Svizzera. Ah. Perché, e questo già dovrebbe dare il polso del fatto di quanto è grave il problema. Ma hai trovato un lavoro in Svizzera? No, diciamo che ho fatto degli investimenti e vivo con quelli. Niente di cui dobbiamo preoccuparci dal punto di vista degli accordi fiscali Italia-Svizzera, no? Perché se no non lo direi. Ah, ecco. No, è tutto assolutamente tutto regolare. Tutto però regolare. Hai detto non è un lavoro, però è una cosa che ti dà da vivere. Sì, praticamente avendo acquistato alcuni appartamenti con gli affitti riesco a mantenermi, ecco. Ok. Svizzera è molto difficile perché comunque le richieste, il reddito minimo è di circa 2.500 franchi al mese. Sì. Per gli stranieri e quindi non è facile. Comunque appunto il fatto che io me ne sia andato, ma in Svizzera incontro tantissime persone che per il mio stesso motivo sono andate via, e se una persona investe denaro e anche energia emotiva è perché veramente il problema è molto grave. Ma scusa, tu sei andato via dall'Italia perché per via degli immigrati? Sì, assolutamente. Perché? Comunque, innanzitutto perché comunque i costi enormi che hanno portano via, cioè fanno aumentare le tasse a noi contribuenti. Ma in prospettiva tra 10 anni avremo 20 milioni di immigrati disoccupati, quasi tutti da mantenere. Però non è vero che in Europa, per esempio, tu ti sei fermato in Svizzera, ma in Francia e in Germania ci sono più immigrati che in Italia, come componente stabile della popolazione. È molto diverso, loro vengono dalle colonie, quindi già sanno la lingua e sono molto più integrati. E poi chi non lavora, io so che comunque qualcuno viene mantenuto, ma molti vengono mandati via, ma non c'è il degrado che c'è in Italia, dove troviamo persone che dormono per terra e non sono nemmeno identificate. Il problema è quello. Sì. Che però scusami, diciamo Giul, te ne saresti andato lo stesso forse a fare questi investimenti, a fare queste attività immobiliari? Me ne sarei andato a vivere probabilmente alla Prica. Dove? Alla Prica, sopra Sondrio. Che a me piace molto. Beh, comunque saresti stato non lontano dalla Svizzera, in ogni caso. No, la Svizzera mi è sempre piaciuta, l'ho sempre ammirata proprio per il fatto delle regole, di come sono attenti, c'è la pulizia, l'ordine, ecco. Vabbè. Il fatto che comunque io stesso devo rispettare delle regole difficili in Svizzera, però sono contento perché l'ho scelto proprio per quello. Se un giorno mi mandassero via, io direi avete ragione. Quello che non capisco degli italiani è il fatto che non capiscono che chi è straniero è comunque un ospite. Io sono ospite in Svizzera, mi ritengo tale e ringrazio la Svizzera. Sì, ma non è che non lo capiscono gli italiani, non lo capiscono, forse non riescono a farlo capire chi ci governa, no? Chi stabilisce le regole, gli italiani non hanno colpe. Renzi evidentemente non interessa che molti italiani, ogni giorno migliaia di italiani se ne vanno, perché per lui è importante che entrino gli immigrati, chi sbarca, chi arriva via aereo, così. Evidentemente avrà o i suoi interessi. Quali interessi? Quali interessi secondo te? Quali interessi? Potrebbero essere o interessi economici, oppure c'è un piano sovranazionale, come si dice da anni, per sostituire gli italiani con altre. Il complotto, il super complotto. Guardi, io non sono mai stato un complottista, però a vedere questo completo disinteresse. Tutti i paesi del mondo prendono l'immigrazione. Io guarda l'Italia. Giulio, fin qua mi ha fatto piacere questa conversazione, ma la teoria del complotto per sostituire l'Italia con gli stranieri non ce la posso fare. No, ma per carità, non è quella a cui do più peso, infatti, sono d'accordo con lei. Quello che però mi stupisce è che tutti i paesi si preoccupano, io vedo la Svizzera, ma vedo anche la Francia. Beh, ma diavolo, ce ne occupiamo anche noi, non si parla d'altro sui giornali, nei telegiornali, che di immigrati. Non per farli entrare, non per respingere. No, ma sì, ce ne occupiamo anche per discutere sul fatto sia giusto ospitarli oppure no. Salvini è in tutti i telegiornali tutti i giorni, non mi sembra che non se ne parli. Se ne parla, semmai non si riesce a risolvere. Comunque Giulio, grazie, buona serata. Questa è la testimonianza dalla Svizzera di un imprenditore italiano che aveva dei mezzi evidentemente per trasferirsi lì e fare degli investimenti e si trova bene in quel paese. Va bene così. Alessandro da Lucca, buonasera. Buonasera. Io volevo tornare all'argomento invece del famoso funerale. Io volevo stigmatizzare un po', rifacendomi anche a quello che ha detto lei all'inizio. Cioè, qui abbiamo un sindaco di Roma che casualmente quel giorno si stava prendendo un periodo di ferie. E ho sentito più volte anche, come dire, dare quasi per scontato il fatto che un sindaco abbia diritto anche lui alle ferie. Allora, siccome una persona come il dottor Marino fa il sindaco di Roma non perché glielo dice il dottore, ma bensì perché decide di mettere a disposizione la sua competenza o quello che sia al servizio della città per un numero limitato di anni, si prevede che, così come avviene per qualsiasi ruolo di responsabilità anche nella vita civile di tutti quanti noi che lavoriamo, per quegli anni lui deve rinunciare a quello che normalmente farebbe da comune cittadino lavoratore. Guardi, io non l'ho detto, credo. Io dico non che non debba permettersi il periodo di imposta. No, ma dico, infatti, guardi, la vacanza. No, ma la vacanza è il sindaco. La vacanza il sindaco se la può fare, secondo me. È giusto che se la faccia un po' di vacanza, come chiunque. Il punto, semmai, è non interromperla quando c'è qualcosa che ti richiama, come quello che è accaduto il funerale di Casa Monica, o anche giovedì, credo che sia confermato che Marino non sarà a Roma quando il governo deciderà se commissariare o meno la città. Questa mi sembra un po' una cosa. Forse la vacanza doveva. L'interpretazione del ruolo è insomma abbastanza singolare, così mi permetto. Va bene, grazie Alessandro. Buona serata. Andiamo con Adelio che chiama dalla provincia di Latina. Adelio. Buonasera, dottore. Sì, prego. Mi sente? Forte e chiaro, Adelio. Sì, tutto bene. La saluto, la ascolto tutte le sere, è un programma bellissimo. Bene, mi fa piacere. Abbassi la radio però, abbassi la radio e ci ascolti al telefono, se no abbiamo un ritorno. Eccolo. Adelio. Mi senti? Sì, benissimo, vai. Ok, perfetto. Volevo intervenire sul caso del compagno di stanza di Barcelli. Sì? Chi potrebbe essere secondo te? Secondo me potrebbe essere Diego Abbatantuono, perché chi più milanista di Diego Abbatantuono potrebbe tenere la base. È milanista Abbatantuono, sì. Fino al midollo. Potrebbe essere, in effetti potrebbe essere un bello zio di quelli perfetto, tosti che ti dà uno schiaffo al momento giusto. Sì, va bene, grazie Adelio, ok, perfetto. Mettiamo agli atti, Abbatantuono, ciao. Come compagno di stanza di Mario Balotelli. Io ho detto ti do uno schiaffo in senso buono, non è che ce l'ho con Balotelli per forza. Però siccome è anche fisicamente Abbatantuono è uno che un po' ti incute un po' di timore. Traffico, ci sentiamo tra un attimo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Jacopo su Twitter, Jacopo Svetoni ci consiglia il mega direttore galattico di Fantozzi come compagno di squadra per Mario Balotelli. Abbiamo invece appena sentito un ascoltatore che proponeva Diego Abbatantuono. Andiamo con Francesco, chiama da Milano, buonasera. Buonasera. Sì? Io volevo proporre come compagno di stanza di Balotelli l'Apo e il Can. Secondo me è una giusta accoppiata. E per fare un casino, sì. Uno poi potrebbe. Mi scusi. Uno potrebbe fare cosa con l'altro? No, uno potrebbe indicare all'altro la giusta la giusta via, ecco. Sì, sì. Non so quale via, però. La rettitudine intendevo dire, la retta via. Sì, sì, sì. È ironico, Francesco. Va bene. No. Poi volevo intervenire, se è possibile, sì, rispetto all'intervento dell'altro signore che parlava del complotto, del signore della Svizzera. Il complotto anch'io lo si può ascoltare. Anche lei è del complotto? No, per un super complotto. Super complotto. Con 3K. Sì? Il KKK. E qual è sto complotto, Francesco? No, il complotto KKK di derivazione statunitense, non so se ho idea. Non lo so, lo dica lei, qual è il complotto, Francesco? No, questo, mi scusi. Il complotto era KKK, che è una sigla che non so, ricorda qualcos'altro. Non so se non lo so, Francesco, se non lo sa lei che ha chiamato, io non so che dirle. Cosa consisterebbe questo KKK, questo negli complotto? Negli stati del sud degli Stati Uniti forse KKK indica qualcosa di particolare, non so se ha idea. No, non ho idea, Francesco, se non ce lo vuol dire, ma me lo dica, anche se io non lo so, me lo dica i lei. I signori vestiti come fantasmi, tutti di bianco. Il Ku Klux Klan. Ma forse, chi lo sa. Ma Francesco, ma lei perché fa così? Cosa vuol dire chi lo sa? Lo dica, cosa vuole dire? No, volevo essere sarcastico, mi scusi. Tutto là, ma c'è riuscito, perché prima ha suggerito l'Apo e il Can da mettere in stanza con Balotelli, poi il Ku Klux Klan come complotto è al contrario, però. No, io sono assolutamente chiaramente lontano dalle idee. Meno male, Francesco, grazie. Buona serata. Sì, no, infatti, al contrario, l'ho detto rispetto a quello che faceva il complotto sugli italiani sostituiti dagli stranieri. Allora, io non so se ci abbiamo l'ospite, ce l'abbiamo. Vai. L'ultimo caso in ordine di tempo di caos legato all'accoglienza degli immigrati, che al confine tra Brescia e Milano lunedì in un centinaio hanno appunto bloccato il traffico e mandato in tilt le strade di quella zona, perché secondo alcuni addirittura protestano perché il cibo è di scarsa qualità. In realtà i problemi potrebbero anche essere altri. Ne parliamo con il sindaco di Brescia, Ugo Vecchiarelli. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, io ho detto i problemi potrebbero essere gli altri, i problemi sono altri, che sono quante persone in un campo che poteva ospitarne poche decine, adesso quanti sono? Beh no, adesso ce ne sono 300 circa, il campo è nato per ospitare diciamo un centinaio di persone nello scorso settembre, siamo erano al 24 triplo. Tende, poi dopo è stato implementato fino a 50 tende che ospitano circa 6 persone. Ogni tenda, consideri che è un campo... È un centro di smistamento della Croce Rossa Italiana. Sì, queste sono persone richiedenti diritto asilo. Sì, tutte richiedenti asilo. Di che nazionalità sono? Ma sono, allora, all'inizio erano siriani, Corno d'Africa, somali, eritrei, poi molti adesso dell'Africa centrale, il Mali, la Costa d'Avorio, il Ghana, questo è il Pakistan, l'Afghanistan anche. Anche queste altre persone. Lei ha detto che il problema fondamentale sono i tempi che si sono allungati per queste richieste di diritto d'asilo. Lo sappiamo che questa è una delle cose che sta mandando in tilt l'accoglienza in Italia, in realtà, perché non so, per legge ci dovrebbero trascorrere pochi giorni, in realtà passano mediamente dei mesi, credo. Quanto tempo ci vuole per avere una risposta? Ma guardi, la legge sul diritto d'asilo in Italia è abbastanza complessa, nel senso che la troppo complessa, si vede. sicuramente sì, sicuramente, che in altri però... paesi è molto più veloce questa cosa, non è detto che debba essere concesso il diritto d'asilo, non sto dicendo questo, sto dicendo che gli altri paesi fanno prima, magari te lo negano e ti rimandano da dove sei venuto, però ci mettono meno tempo. Il punto non è soltanto la legge sul diritto d'asilo, il punto è la convenzione del trattato di Dublino, che stabilisce che la persona fotosegnalata ed identificata deve rimanere in quel territorio. Sì. E questo è stato siglato 5 anni fa, quando le condizioni erano assolutamente diverse. Senta, questo è stato adeguato, secondo me. Però adesso cosa succede nel suo territorio? È vero che hanno protestato anche per il cibo, alcuni di loro? È successo i primi di giugno ed è successo soltanto perché occasionalmente la Croce Rossa aveva fatto delle verifiche in previsione del Ramadan, che c'è stato tra il 17 luglio e il 17 agosto, tra il 17 giugno e il 17 luglio, e quindi avevano fatto delle verifiche. E il cibo freddo, l'insalata di riso, diciamo, non era piaciuta, ma non è tanto quella la protesta. La protesta vera era per le condizioni. Lei deve immaginare che molte di queste persone stanno lì da tanto tempo e hanno già vissuto un inverno, che l'ultimo inverno è stato abbastanza mite. A fronte di questa estate piuttosto calda, c'è solo da augurarsi. Ci sono persone che da quanto tempo stanno lì? Ma mediamente alcuni sono a qualche mese che stanno lì. All'inizio erano pochi, venivano smistati con una certa rapidità. È chiaro che aumentando i flussi questa cosa ha determinato delle... Ma chi ha deciso che devono stare lì quegli il prefetto? Ministero degli Interni, la prefettura di Milano. E lei però ha detto, noi siamo over, sono troppi, un centinaio potevamo tenere, ma adesso 300 sono troppi, non va bene così. No, diciamo che l'implementazione è arrivata fino a 50, oltre non si può andare. In un colloquio che ho avuto con la prefettura i primi agosto ho ribadito questa necessità, che non si può andare oltre, ma loro stessi si rendono conto che non può essere quella una soluzione definitiva. Sì. Prima perché è temporanea, secondo perché è dismistamento, terza perché intende, quarto perché io credo, l'ho ribadito anche oggi ad altri vostri colleghi, il nostro paese è un grande paese, 60 milioni di persone, 100.000 ingressi nel 2014, credo che l'utilizzo delle caserme vada assolutamente considerato. Quindi lei, diciamo, in questo momento il suo interlocutore è la prefettura, il Ministero degli Interni, e cosa manda a dire? Anche attraverso i nostri microfoni. Il spirito è di grande collaborazione e di correttezza istituzionale. Però mi sembra che siete arrivati al collasso. Io l'ho detto a loro 20 giorni fa, e allora glielo chiederò anche nel colloquio che avrò giovedì prossimo, che quella è una struttura che deve essere superata con una struttura permanente diversa, fatta con il crisma in una struttura. Ma c'è qualcuno che la sta a sentire quando dice queste cose? Adesso le sta dicendo a noi, però insomma c'è un interlocutore che l'ascolta? In questi giorni ci sono stati parecchi problemi, potrebbe risuccedere domani, ecco. I problemi sono derivati dal fatto che i numeri sono aumentati. Aumentando i numeri si determina, diciamo, l'aumento delle difficoltà della gestione. Però chi pianifica queste cose? Lei che voto darebbe a chi pianifica, alla prefettura o al Ministero degli Interni? Mettiamola così, da 0 a 10 su questa vicenda, che voto darebbe? Mi sembra un voto basso. 6 e mezzo. È molto generoso, perché io ho visto oggi alcune dichiarazioni, ma anche ieri, sue nel pieno del caos, era un po' giustamente. Nervi potenti. Le mie dichiarazioni sono molto precise rispetto a chi solleva polveroni. Chi solleva polveroni è l'ultimo che può dire noi avremmo fatto diversamente. Sa perché? Perché chi solleva polveroni spesso si è trovato nelle condizioni di firmare il trattato di Dublino, e quindi in attesa che l'Europa riveda il trattato di Dublino, come mi sembra oggi. Sì, però io capisco che lei dica la Lega solleva solo dei polveroni, però lei è del PD, sta al governo Cerenzi Alfano, però lei è in grossa difficoltà, e quindi io le chiedo. Sì. Quando uno fa il sindaco deve guardare l'interesse generale, non deve guardare l'interesse del partito, glielo dico con grande franchezza. Per quello le sto chiedendo come secondo lei è stata gestita questa cosa. Secondo me il ministero può fare meglio. Il 6 e mezzo sta in questo. Sulla fiducia. Quando il trimestre ci davano il 6, dice guarda, puoi arrivare al 7 all'8, basta che ti impegni un po' di più. Quindi in realtà al momento è un'insufficienza. In realtà al momento è un'insufficienza quella che le dà dal fatto. No, è un'insufficienza, dice, è una sufficienza. Io credo che si debba di fare di più e meglio in Europa, perché ripeto, un grande paese come l'Italia. Ma scusi, se sul suo territorio ci sono 300 profughi che sono in difficoltà, è colpa di Alfano o dell'Europa? È colpa del prefetto o è colpa dell'Europa? È colpa del fatto che per lunghi anni questa cosa è stata sottovalutata. Sono arrivati da soli questi immigrati? Molti. se posso precisare. Sì, sì, per lunghi anni, io capisco i tempi, però per lunghi anni questa cosa è stata sottovalutata. Il sud del mondo si sta, sta creando un ribaltamento di immigrazione. Sottovalutata anche dal governo, però, mi scusi, o solo dall'Europa? È stata sottovalutata. L'Italia ha 7.000 km di coste e è maggiormente esposta rispetto ad altri. Però io questo ho detto, l'Europa deve fare di più e meglio e non ricordarci di essere unione soltanto quando si tratta di patto di stabilità, bilanci e rispetto, diciamo, della finanza pubblica e l'equilibrio di bilancio. L'Europa è anche solidarietà tra stati, questo è che io chiedo. Poi la nostra vocazione, diciamo, solidaristica rimane tutta rispetto, sì, a chi, no, ma la mia domanda, mi scusi se l'ho incalzata, è che in attesa, sì, dei trattati in Italia governa il governo, non l'Europa, sì, e quindi credo che lei abbia bisogno di risposte dal governo e da Alfano. Non, assolutamente, no. Io infatti ho chiesto un incontro col prefetto e domani e dopodomani, giovedì, lo incontrerò e dirò che questa soluzione non può essere una soluzione definitiva, deve essere ripensata. Io questo l'ho già ribadito 20 giorni fa e sapevo che si sarebbero generati problemi. Detto questo, siamo in campo ogni giorno per garantire accoglienza e ospitalità a persone che furono a guerra e disperazione. A me spiace. Devo chiudere. Spiace, la ringrazio, sì, sindaco, la ringrazio. Buona serata. Dobbiamo chiudere Giornale Radio, torniamo tra pochissimo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Prossimo anno togliamo TASI e IMU per tutti, nel senso che non è possibile continuare questo giocattolino dove la tassa sulla casa l'abbiamo messa tolta. Qualcuno dice: ah, ma se togli la tassa sulla casa sei come Berlusconi. No, Berlusconi è quello che l'ha anche rimessa la tassa sulla casa, votandola insieme a Monti. Non è questo il punto. Una cosa non è se l'ha fatta Tizio o Caio, se è giusto o non è giusto. Non volevo venire al meeting di Rimini, non certo per un fatto ideologico, vorrei tranquillizzarvi subito, non sono uno di voi, quindi potete stare tranquilli, sereni, non avere preoccupazioni particolari. Vi ho conosciuto in una scuola fiorentina, io studente boy scout, quindi con qualche giudizio, se volete pregiudizio, nei confronti della pericolosa presenza CLI a scuola. Per me, quando penso a voi, vuol dire pensare a Peggy, a Claudel, a Chesterton. E come anche nella vita politica abbiamo avuto idee diametralmente opposte. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, 18, 20 e 30, 800 24 00 24. Ricominciamo con le promesse. Sono finite le vacanze per Matteo Renzi, presidente del Consiglio, che oggi al meeting di Comune Liberazione, avete sentito, è tornato ad elargire promesse. L'aveva già detto: via l'IMU, via la TASI e poi una risposta anche a Salvini. Un autorevole statista, un altro, di cui non farò il nome, che ha detto: adesso noi a novembre, il 6, 7, 8 novembre, blocchiamo l'Italia tre giorni. È il leader della Lega Nord. Qualcuno gli dica che l'hanno già bloccata per 20 anni l'Italia, quelli lì, eh? Che quando c'era quello spread lì al governo c'era la Lega con Berlusconi, non c'era solo Berlusconi. Intanto di bloccate c'erano le strade lunedì a Bresso per il blocco, appunto, degli immigrati, dei profughi, 300 persone ospitate in un tendopoli della Croce Rossa, perché il prefetto ha deciso così, dovevano essere un'ottantina, adesso sono 300. Il sindaco di Bresso, l'abbiamo sentito poco fa, per dire la verità è stato anche abbastanza generoso nei confronti di Alfano, ha dato un 6,5 sulla gestione dell'immigrazione, ma sulla fiducia, perché fino ad ora le cose non vanno. Sentiamo allora la voce di uno di questi richiedenti diritto asilo, che da mesi passano, sono passati mesi e sono ancora lì in questa tendopoli a Bresso, una situazione a detta del sindaco intollerabile. E poi sentiamo anche Nunzia De Girolamo. This casa not good. Try to help us, the government of Italy. Try to help us. We are receiving bad condition. Try to help us. We are dying. penso che Alfano, come Renzi, abbiano sottovalutato il tema dell'immigrazione, che è di portata epocale e non c'è dubbio, e mi pare che questo governo non faccia accordi con l'Europa, non faccia accordi internazionali. Ciao Carlo, Carlo Gabardini, buonasera. Ci sei? Alessio, buonasera a tutti gli ascoltatori, certo che ci sono, sono qui. Ben ritrovato, staremo insieme fino per un po'. Sentiamo sui funerali di Casa Monica, Roma, Vittorio Sgarbi, poi Matteo Salvini e Osvaldo Napoli, Forza Italia. Se uno è un boss mafioso, tutto farà meno che un funerale da boss, farà un funerale da cuccia, un funerale molto riservato, più che un boss è un coglione. Cioè, il boss non si fa un funerale così. Ci abbiamo già tanti amici qua. Dov'è il profilo criminale? Non c'è. La parola gliela fanno. Profilo criminale non esiste. Però io ci provo. Ormai manca l'invasione delle cavallette e lo sbarco degli extraterrestri. Poi a Roma veramente abbiamo visto quello che non abbiamo visto in nessun'altra città del mondo. Io non so di chi è responsabilità. Mi fa tristezza enorme il fatto che nessuno sapeva, nessuno ha visto. Non è colpa mia, non è colpa sua. Carlo, hai sentito Sgarbi? Cioè, per una volta hai detto quasi una cosa come Sgarbi, ha detto non c'è il profilo criminale. Esatto, quindi dopo che Sgarbi ci ha dato degli stronzetti, e invece siamo d'accordo. Siamo d'accordo con lui. Sì, no, non sono tanto d'accordo con lui quando dice che il matrimonio è il mafioso, perché non è vero. Spesso invece il mafioso fa un matrimonio dimostrativo per far vedere che il potere è rimasto nonostante lui sia morto. Quindi non sempre è così vero che il mafioso decide di fare un funerale sottotono per non far vedere le proprie ricchezze, perché direi che molti mafiosi invece hanno fatto fiori funerali per far vedere che il potere era ancora in mano alla loro famiglia. Sentiamo anche Osvaldo Napoli su Marino, sul sindaco, insomma su queste vacanze che non finiscono prima del tempo. Io l'ho già detto, anche giovedì, quando il governo deciderà sul commissariamento di Roma, Marino sarà in vacanza. Sarebbe molto meglio che Marino stesse a Roma e rientrasse a Roma, dimostrasse di andare in ferie. È giusto che un sindaco ci vada. Io l'ho fatto. Però in una situazione di questo genere si prende il primo aereo, lo si paga e si ritorna a casa. In fondo quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Quando c'è sentimento. Voi siete lì, voi due stronzetti, sì. Siete quelli che avete preso il posto di quegli altri due. Pentimento. Tutto gira intorno al sesso. Perché il sesso tira su. Allora, è accaduto quello che non doveva accadere, cioè il più famoso sito di appuntamenti, di incontri, per avere delle relazioni sessuali, è stato hackerato. Cioè adesso ci sono liste di nomi di mariti e mogli, ma soprattutto mariti infedeli, che girano online, soprattutto in America. È insomma un bel problema, o forse no. Ne parliamo con Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta e sessuologo. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera Alessio, buonasera a tutti. Conduce tra l'altro Sex Therapy su Cielo. E insomma, ti chiediamo intanto, il tradimento è una cosa ineliminabile, è ovvio, non è che assolutamente per certi aspetti diciamo anche meno male, ma in aumento questo fenomeno oppure stiamo sempre... Ma in realtà con il fatto che sia più facile, no, attraverso internet, attraverso le comunità virtuali tradire, sicuramente è aumentato, comunque è un qualcosa che è sempre esistito e sempre esisterà, questo è sicuro. Ecco appunto, ma a tradire al giorno d'oggi vuol dire passare, l'hai detto tu, dai social network o anche da siti di incontri come quello lì, ma questo cambia in meglio cioè oltre ad aumentare diciamo le possibilità di tradimento, la qualità diciamo della situazione che si viene a determinare cambia in meglio o in peggio secondo te? Ma io credo che da un lato questo aspetto di tradimento, soprattutto quello virtuale, può solo che dare anche un po' di pepe alla coppia, sicuramente, perché poi spesso dietro ai tradimenti ci sono quelle che vengono chiamate delle assenze, delle mancanze, no, rispetto alla relazione. Quindi da un lato potrebbe essere anche un incentivo positivo, però. Dall'altro però potrebbe creare un gran caos e ne è il risultato appunto l'hackeraggio appunto anche perché non è virtuale questo tipo, nel senso che è un sito, Ashley Madison è un sito di incontri, ma poi le persone si incontrano, non è semplicemente che si scrivono delle zozzerie sullo schermo. Questo è vero, infatti rispetto a quel sito sicuramente lì c'è una realtà molto meno virtuale e più realistica. Il punto però è che anche in Ashley Madison in realtà nasce un po' tutto tutto da un, cioè, da un punto di vista mascherato, cioè, non è che stiano poi alla luce del sole, nel caso sì, chi la paura più grande è quella di essere rivelati, no? E certo, rivelare quelli che sono i nomi. Perché che hanno trovato gli altri. Io una cosa, la differenza che vedo col passato è che adesso con i social network, ma anche con siti come questi dove ci si scrive, resta traccia, non c'è niente da fare. Un tempo uno poteva tradire e sperare che nessuno se ne accorgesse e farla franca, perché una regola d'oro del tradimento, mi sbaglierò, ma è che non lo devono venire a sapere il marito o la moglie, cioè se no addio, finisce tutto. Se no diventa una complicità e quella è un'altra cosa. È un'altra cosa, che può anche essere, eh? Può anche essere. Che può anche essere, anche perché oggi sicuramente più di ieri sono tantissime le persone che poi vivono una sessualità, chiamiamola aperta, e quindi dove il tradimento può essere semplicemente un modo di giocare, di vivere appunto il sesso. Però quanta, in che percentuale delle coppie che tu incontri anche nelle tue terapie ci può essere questa consapevolezza per arrivare ad una complicità sul tradimento? Ma allora la complicità in realtà se arrivano in terapia è bassa, nel senso che anzi la maggior parte delle coppie che sono vedo sono coppie che sono conflittuali, esatto. Spesso quando arrivano in terapia sono coppie che arrivano, diciamo, alla frutta se non al caffè, e questo è un gran pericolo per la coppia stessa. Sì. Una cosa che posso dirvi è che tendenzialmente non è vero che sono gli uomini a tradire. Io una cosa che ho constatato di recente è che sono molte donne a creare poi una situazione di tradimento. Quindi oggi sicuramente anche lì c'è stata una par condicio rispetto ai ruoli di genere. Ah, si è parificato. Perché invece su Ashley Madison le statistiche dicono che l'80 o forse addirittura il 90% degli iscritti sono uomini. Ma lì perché gli iscritti, nel senso che internet, le chat, per non parlare appunto neanche della pornografia, è molto legata al genere maschile, però per quando si riparla di tradimenti, i tradimenti oggi sono abbastanza... Ma infatti, anche se l'esperto ovviamente è lei, però se posso dire è che secondo me le donne sono più intelligenti e non hanno bisogno di un sito, bravo, per tradire il proprio marito, bravo, invece bravo, l'uomo bravo, che è un po' ciulotto dice aspetta che vado su questo sito e metto anche la mia carta di credito e la mia mail. Esatto, cioè, sono più intelligenti, però scusate, sono anche, è anche forse più facile per una donna, non vorrei dire una castroneria o no, cioè se una donna cerca un uomo con più facile... la donna non è che è più facile, probabilmente la donna ha più strumenti per agire in maniera come dire abbastanza semplice in qualunque ambiente, l'uomo a volte si deve nascondere o comunque deve trovare delle situazioni accattivanti, internet diventa una di queste. Si può dire anche che, cioè, dal tradimento si può uscire anche tranquillamente, non è la fine del mondo, perché ci sono delle persone che si sono, non è detto che non è chiaro se sono questi suicidi collegati all'hackeraggio di Ashley Madison, però ci sarebbero tre persone che... Certo, allora questo discorso dei suicidi è un qualcosa che va indagato e va capito. Sicuramente se c'è un suicidio dietro a una situazione del genere c'è anche una personalità estremamente fragile che questa scintilla ha creato uno scompenso importante. Io non credo che con il tradimento e con lo svelare del tradimento una persona si suicida, non è questo. Anzi, spesse volte il tradimento potrebbe diventare un modo anche per definire in maniera diversa quel rapporto di coppia che probabilmente era in crisi e che forse proprio con il tradimento potrebbe ritrovare un qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Quindi suggerimenti da dare proprio per uscire da una situazione, cioè uno si caccia in una situazione del genere, magari viene scoperto per aver fatto un tradimento, cosa bisogna fare? Allora, se viene scoperto sicuramente scappare. È importante, più che scappare no, è importante sicuramente affrontare, anzi, cioè io dico che riuscire a parlare potrebbe essere una via di fuga importante perché va a ridefinire e a rimettere in gioco quel rapporto. Poi se comunque il rapporto doveva terminare, terminerà comunque. Il punto invece di nascondersi, scappare oppure aspettare che qualcosa accada cadendo dal cielo potrebbe creare situazioni imbarazzanti e situazioni molto complesse. Quindi parlare prima di tutto, sicuramente rivelando le situazioni, e non tanto parlare per fare mia colpa, non è questo, cioè parlare per anche esprimere, no, qualcosa che ha creato una debolezza e ha fatto sì che la persona è arrivata al tradimento. Però posso dire, converrebbe parlarne prima che tutti i giornali già stanno minacciando di tirar fuori i nomi, perché adesso è un po' troppo facile. Cioè, se uno lo fa in un momento che dice guarda cara, devo confessare che ti ho tradito, è un conto. Se proprio tu apri il giornale e dici forse usciranno i nomi, e allora tu dici guarda cara, volevo dirti una cosa, forse vale un po' meno. Diciamo che vale meno, però il rischio più grande è che questa cosa uno non lo sa in anticipo, quindi oggi come certo. Oggi se uno deve dare un suggerimento potrebbe giocare da cioè in questo momento, visto che cosa. Ashley Madison è stato hackerato, che girano dei nomi, esatto. Fatevi avanti, ma veramente secondo te uno che ha tradito deve necessariamente andare a parlare col compagno, oppure appunto una quota diciamo sindacale minima di tradimento non rivelato da terapeuta della coppia può far bene anche alla coppia? Cosa stai cercando di dirci, Alessio? Esattamente quello che stai pensando, Carlo. Chiedo scusa per l'interruzione. No, hai fatto benissimo, perché anche io avevo avuto la stessa sensazione che fosse un po' terapeutico in questo momento. Ma no, non lo so, anche nel senso che andrebbe visto caso per caso. Cioè io credo da un lato che il fatto di poter anche nasconderlo il tradimento è sicuramente importante. È chiaro che in questo momento specifico stavamo parlando di una situazione estrema, e dietro a quella situazione estrema uno poteva dare dei suggerimenti diciamo un po' così tra virgolette intelligenti. Tradire fa parte comunque del genere umano, cioè non possiamo nasconderci dietro a un dito rispetto a questo, quindi fa parte del gioco. Sito, direi. Come? Direi che non possiamo nasconderci dietro a un sito. Invece che un dito. Esatto. E il fatto è che sarebbe molto importante riconoscere le proprie responsabilità, cioè se uno arriva a tradire deve riconoscere il perché l'ha fatto. Già se arriva a fare questo, al di là di fare una comunicazione, cioè di trasmettere comunque la comunicazione al partner di quello che ha fatto o meno, se è consapevole è già in una strada positiva. Se invece agisce in maniera così inconsapevole rimane in qualche modo non incasso. Ma dacci un indizio pericoloso. In più, perché uno tradisce? Ma uno tradisce, bisogna vedere anche a che livello è la coppia, cioè spesse volte la coppia in crisi è una coppia magari datata, quindi potrebbe esserci un cadere nella famosa trappola della routine, no? Uno tradisce per ottenere un qualcosa di nuovo, un provare nuovamente una sensazione di innamoramento e così via. Altre volte perché manca qualcosa in quella coppia. E me lo dici dopo la borsa, me lo dici dopo la pausa per la borsa, che adesso se no facciamo però andare giù i mercati, eh? A tra poco. Può fare l'attualità anche d'estate. In fondo quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Eccoci qua, i problemi nascono quando non c'è il sentimento. Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta sessuologo, lo ricordo, anche presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma, nonché conduttore di Sex Therapy su Cielo, ci stavi spiegando i motivi per cui si tradisce scientificamente. Quali sono i motivi? Dicevi routine. Allora, routine e quindi ritrovare l'innamoramento, sì. Che quello sicuramente è importante. L'altro invece potrebbe essere un qualcosa che manca nella coppia, cioè a volte coppie datate appunto potrebbero non essere soddisfatte anche di quella che è una sessualità ormai di routine, ormai legata diciamo a certe situazioni che poi non cambiano. Allora in quel caso l'occasione potrebbe fare l'uomo ladro sicuramente, quindi creare una situazione di eccitazione altra, oppure potrebbe esserci anche un'occasionalità a prescindere da quello che manca o non manca nella coppia, nel senso che capita quando capita. Esatto, quando capita. Oppure però in questo extremi, caso non è il caso di Ashley Madison, perché lì bisogna andarsi a scrivere, quindi è un'altra esatto. Oppure o forse è solo un tentativo di testare la validità della coppia. O non vale questa come giustificazione? Io a volte la uso. Allora, quello bella scusa. Potrebbe essere pericoloso, diciamo. Potrebbe essere un po' pericoloso. No, il problema è un altro, è quando una persona tradisce perché non sa come andare a lasciare la persona che ama o che amava in quel caso. Cioè, nel senso, non riesce. È un modo per lasciarla, quindi uno stillicidio. Esatto. E quello esatto. È cioè, come serial killer che vuole essere scoperto. Esatto, praticamente. Lascia le tracce. Però Quattrini, come la mettiamo col fatto che gli iscritti a questo sito sono la maggior parte uomini che cercano, potrebbero essere anche uomini che cercano uomini? Assolutamente sì, non a caso infatti l'identità, chiamiamola virtuale, no, vissuta su internet, nasconde caratteristiche che potrebbero andare ben oltre, vanno ad esempio anche in quegli orientamenti altri che la persona non vuole accettare, vanno alla ricerca ad esempio di sensazioni forti che si possono trovare nei canali BDSM, vanno in quelli che possono essere delle caratteristiche di trasgressione trovatesi magari nel transgender piuttosto che vederle nella persona transessuale. Gli uomini sotto questo punto di vista sono molto viziosi, diciamolo in questo modo. Però gli uomini che cercano uomini usano Grindr, non usano il sito canadese, non c'è bisogno di tanta complicazione. Usano Grindr, vero, da un lato, ma no, usano tutti i canali possibili, nel senso che internet offre, come anche Ashley Madison, offre un ventaglio, no, su tutte le possibilità sia di orientamento rispetto anche al genere. Quindi sì, è possibile, è possibilissimo questo. Comunque io chiuderei dicendo, se uno ha tradito e viene scoperto, dispiace far star male il compagno, la compagna, però non bisogna neanche pensarci minimamente, no? Al gesto estremo, insomma. Il gesto estremo, ripeto, ho la sensazione che si nasconda ben altro, e sicuramente quello che è accaduto è un po' anche, come dire, manipolato probabilmente dagli stessi media. Io credo che la persona che tradisce, se viene anche scoperta, da un lato forse li rimbalza, o forse ha trovato anche la giusta modalità per poter arrivare a comunicare esattamente, tipo serial killer che diceva Carlo, la possibilità di lasciare definitivamente la parte o il partner. Purtroppo, quindi, per fortuna, è una cosa abbastanza normale, quindi, come dici tu, può essere l'inizio poi di un percorso con l'altra parte, insomma, della coppia. Assolutamente sì, ripeto, l'importanza è prima comunicarlo sicuramente, ma comunicarlo anche a se stessi, perché la consapevolezza diventa veramente un qualcosa di fondamentale. Cioè, più uno è consapevole di quello anche che ha fatto, e più uno è forte nell'affrontare le situazioni che comunque arriveranno e verranno successivamente. Quindi, traditori all'ascolto, state tranquilli, assolutamente tranquilli. Grazie Fabrizio Quattrini. Grazie mille a voi. Ciao. Grazie mille. Buona serata. Buona serata. Scusa Alessio, volevo dire un'altra cosa su questa notizia che mi sembra interessante. Che siccome parliamo molto spesso in Si può fare, anche sabato e la domenica, quando facciamo la trasmissione, di nuove idee, di start-up, di giovani o giovanissimi che inventano una app e diventano molto ricchi, inventano WhatsApp e riescono poi a vendere la loro idea a una major e fanno un sacco di soldi, mi sembra corretto in questo caso ricordare che il fondatore, che è Noel Biederman, che è un 39enne che ha fondato questo sito Ashley Madison, adesso pare che ci sia una class action e quindi penda una possibile condanna per 578 milioni di dollari. Mi sembra importante ricordarlo, perché sennò diciamo sempre, ah, basta avere un'idea, poi la vendi, beh, perfetto, e comunque ci sono anche dei rischi. Eh sì, in questo caso qui evidentemente, chissà perché, c'è qualcosa che non va in questa piattaforma. Sentiamo gli ascoltatori se hanno qualcosa da raccontarci anche su questo argomento. Marco da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Senta, oltre che essere un appassionato di ricerche verso il gentilcesso, sono anche uno psicologo. E per motivi di lavoro mi sono iscritto. Allora, il suo precedente, si sentiva dalla voce che era giovane, non sa che la donna, quando ha il calo ormonale del sesso, se ne frega. E allora i mariti purtroppo sono costretti a ricorrere a questi pseudo siti. Il sito Ashley è il peggiore che esiste, una truffa che non finisce più. No, però aspetti un attimo, andiamo per gradi. Lei mi sta dicendo quello dei motivi di tradimento, che ha trascurato Quattrini, è quello del calo ormonale delle donne, per cui gli uomini sono costretti a uscire di casa. Però io non darei la colpa alle donne in questo modo. Non parliamo di colpa. Scusi, non parliamo di colpe. La donna si appaga del matrimonio. Non parliamo di colpe. L'uomo è fatto in un certo modo, deve funzionare sessualmente parlando, perché sennò gli viene il cancro alla prostata, come sapete tutti, è una necessità fisica dell'uomo. Ma questi cali ormonali delle donne quando sopraggiungono? In che fase? Dopo i figli ormonali e mentali, e poi dopo con la menopausa, di 50 con la menopausa. Dai 45 in poi. Per cui allora questi le donne proprio diventa, a parte, diventa un peccato fare sesso. Questo lo dicono i miei clienti. Come un peccato? In che senso un peccato? Diventa un peccato, sono tutte cattoliche, per carità. Ma no, ma non è così. Il calo non non confondiamo il calo ormonale, che ci può essere col fatto che le donne non vogliono più fare sesso. Come un peccato fare sesso per una donna che sta in calo ormonale, che ormai il sesso non lo vede più. Per lei è come un peccato. Ma non è un peccato, scusi. Ma so che non è, ma me lo dice, sto dicendo che ma sta dicendo che è un peccato, non è un peccato. La donna come fosse un peccato. Scusi, le parole sono come fosse un peccato, per cui ci sono persone con le mogli belle, carine, come Strauss-Kahn, per farmi un esempio, perché non se lo filava per niente. E allora lui ricorreva alle mignottelle che trovava. No, scusi. Il marito della Mussolini, sì, perché è stato lasciato così? Se la moglie gli stava più appresso dal punto di vista sessuale, non andava con le ragazzine. Questo è possibile, questo. Beh, è possibile. Non lo sappiamo. In che senso? Non... Questo, guardate, è colpa della Mussolini? Non è colpa, non è una colpa, perché essendo un calo nella donna... No, intanto una cosa dobbiamo dirla, perché in quel caso il marito della Mussolini è, credo, accusato di essere andato con delle minorenni. E questa è un'altra cosa, non c'è calo ormonale che tenga, non c'è calo ormonale che tenga in questi casi. Credo che sia per arrivare una telefonata di Alessandra Mussolini a questo punto, che ci spiegherà che non è, diciamo, sua responsabilità il fatto che suo marito andasse con altre donne. Però scusi, Marco, lei ha detto che è uno psicologo? Sì. E che ha provato il sito per motivi professionali? Sì, diversi siti ho provato. Perché le sono venuti dei clienti a dirle: la mia moglie ha calo. Scusi un attimo. Sì. Mia moglie ha calo ormonale. Mi sono scritto su Ashley Madison e ho fatto che cosa? Niente, è una truffa. Non ci sono. Lì, prima di iscriversi, ci sono tutta una serie di figurine, di fotografie. Che una volta iscritto, una volta che ha pagato, sì, poi dopo non riesce più a avere contatti. Quanto costa l'iscrizione? No, poco, sulle 35, come tutti i siti. No, però guardi, che credo che stia parlando, mi scusi, forse mi sbaglio io, ma questo sito Ashley Madison in realtà è un sito di incontri che funziona benissimo per gli incontri, perché ha 32 milioni di iscritti, non è un sito. Però... io parlo di quello italiano, non parlo, non sono però scusi Marco, Carlo, no, non hai appena detto, Carlo, non hai appena detto che il fondatore sta subendo una class action? Perché? Ma quello è in America, no, non confondiamo. Ragazzi, i clienti che sono stati diciamo dopo la minaccia che è uscita sui giornali, per i nomi, per la privacy, no, tutti insieme, per un altro, esatto, motivo. Invece secondo il, esatto, signor Marco, proprio, no, il sito è una truffa. Sono dati di credito che risalgono, non confondete, non è, sì, il nome, perché il nome, però, è, scusi, Marco, mi spiega perché secondo lei questo sito è una truffa? Cioè, uno paga 35 euro come negli, allora, altri siti? Prima di iscriverci, sì, lei vado sul sito e vede tutte belle ragazze, sono disponibilissima, voglio venire, voglio fare l'amore con tutti, sono disponibilissima. Benissimo, uno paga 35 euro, il momento che si iscrive... Spariscono tutte queste ragazze. Però mi scusi, stiamo parlando di un altro sito, perché non è questo tipo di sito. Il sito di cui sta parlando lei è un sito che è semplicemente per accalappiare persone che sono in pornografia. Questo è proprio un sito di incontri, in realtà. No, non lo fanno proprio, guardi, direte. Marco, lei è sicuro di avere provato Ashley Madison, Marco? Ma certo che l'ho provato. Allora, scusa, Carlo, se lui dice che l'ha provato, che è così... Poi un'altra cosa voglio dire all'amico Gabbardini. Per gli homosex ci sono dei siti adatti che sono gratuiti e che sono funzionanti. Sì, ma non ho il minimo dubbio. Perché cosa, scusi? Su Ashley Madison non vanno gli omosessuali. L'ho già detto 20 minuti fa, c'è Grindr che è gratuito. Ed è comunque per... Marco ci sta dicendo che alla fine del percorso di iscrizione le donne che ti vengono offerte spariscono. Forse perché sono il 5% delle iscritte le donne, sono poche, sono quasi tutti uomini che cercano incontri. Fa la prova, ne trova 100, tutte fotografie, sì, di Roma, di Parigi, tutte belle, tutte pronte, sono disponibilissima, voglio amare, voglio fare. Quando poi sei iscritto e le manda una lettera, una mail, e dice: guarda, allora mi piace il tuo profilo, se sei disposta, non ce n'è una che risponde. Marco, forse che... però era non era proprio questo sito che ha milioni e milioni di iscritti, e quindi evidentemente un po' funziona, perché se no non mi spiego perché nel mondo ci sono, credo, 40 milioni di iscritti. 32 milioni, o sono 32 milioni di idioti, oppure qualcuno ha concluso. No, ma è un altro tipo di sito, per questo che stavo dicendo. Poi dopo può essere che ci sia una coppia italiana, sì, che faccia il verso e che in realtà si occupi solo di pornografia. Va bene. Ma qui non stiamo parlando di pornografia. Andiamo. Di un sito. Sì. Prego. No, dico, stiamo parlando di un sito che, tra l'altro, è anche interessante, sì, per la questione della privacy. Che addirittura, se non ho capito male, in realtà è gratuita l'iscrizione. Ma se vuoi, tu aggiungi $19 e a quel punto loro ti promettono di cancellare i dati. Quindi in realtà era già insita una sorta di meccanismo per cui per più privacy equivaleva a più soldi. Più soldi. Antonio da Urbino, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io volevo parlare di Balotelli, scusate, torno un, sì, po' più terra terra. Allora, avevo un nome in mente, poi dopo ascoltandovi potrei suggerire a Balotelli di dormire anche con Fabrizio Quattrini, perché comunque mi è parsa una persona che potrebbe spiegargli diverse cose. Però il primo nome che avevo avuto in, sì, mente... Sì, perché secondo me Balotelli ha dei problemi ovviamente anche con la sua conduzione sessuale. più che sessuale, relazionale. E siccome Fabrizio Quattrini ha parlato molto bene di relazioni e di risposte alle relazioni, sì, è vero. Ma francamente lo potrei vedere bene. E però adesso noi chiamiamo per chiederglielo. Non so come vedrai Quattrini lui con Balotelli, però. E poi dopo, però, in verità avevo pensato a un'altra persona. Scusate, avete fatto il nome di politici tipo Salvini o addirittura di Andreotti. Beh, sì. Io ci vedrei molto meglio Mara Carfagna. Innanzitutto per diciamo, credo che anche Balotelli ce la vedrebbe bene Mara Carfagna, esatto, più di credo Andreotti. Che siano i canoni estetici e cose che potrebbero piacere senza dubbio a Super Mario, ma poi anche perché, senza essere banale, ma per fare un discorso un attimino un pochino più diciamo profondo, Mara Carfagna ha avuto una certa parabola, no? Ha iniziato la sua carriera in un certo modo, sappiamo che è iniziata in un modo e oggi è tutt'altra cosa, quindi è cresciuta nel suo percorso, è diventata, a prescindere da quello che può essere il credere politico o meno della persona, io non voglio discutere questo, però è una persona che è estremamente cresciuta ed evoluta. Ecco, forse potrebbe spiegare a Mario Balotelli. Bisogna vedere se fa in tempo a spiegarglielo, perché sì, esatto, forse non ce l'avrebbe il tempo. Lei lo dice sul serio comunque, Mara Carfagna. Mara Carfagna. Va bene, Antonio, grazie, buona serata. Carlo, tu chi proporresti come compagno di stanza ideale per Balotelli, per metterlo in riga? Ce l'hai un nome? Ce l'avrei un nome che non è, però insomma, se avete usato anche il nome di Andreotti posso farlo. Se io ci metterei Margherita Hack, che purtroppo ci ha lasciato due anni fa, ma che penso che sarebbe la persona giusta. E poi li vedo bene, mi sembra una cavolo che coppia, straordinari. Meglio di Mara Carfagna, secondo me, più efficace. Ma sì, per quello... sì. Meno gossip e più didattica. Sì, sì, per quello che abbiamo in mente noi, meglio sicuramente Margherita Hack. Lorenzo da Brescia. Però sono interista, sì. Quindi potrebbe essere anche una mossa, diciamo, per non far giocare bene Balotelli. Anzi no, niente ascoltatori, perché adesso abbiamo un'altra storia. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare abusiva. Ritroviamo l'avvocato ambientalista di Agrigento, detto anche lo sceriffo, credo, Giuseppe Arnone, buonasera. Buonasera a voi, ben ritrovati. Buonasera. Le fa piacere essere chiamato anche lo sceriffo? Sì, perché va in giro col cappello in certi video, l'abbiamo visto. Sì, c'è un messaggio che è estremamente critico nei confronti della procura di Agrigento, che per i comportamenti che tiene, per quelli che non tiene, ha necessità di un'autorità superiore. Perché allora, noi stiamo parlando di abusivismo. Sì, in questo caso stiamo parlando di abusivismo. Perché? Allora, la notizia è questa: al via le demolizioni degli edifici abusivi nella Valle dei Templi, in provincia di Agrigento, questo è titolato i giornali, poi però si è scoperto che stavano tirando giù solo un muretto. Dalle mie parti si parla di pupiamento quando abbiamo un pavoneggiamento da trastullo del tutto inutile se non dannoso. Un pavoneggiamento da trastullo. Siamo in presenza di un pupiamento. Perché il muretto, scusi, mi faccia dire un'immagine. Sì, mi faccia dire concludere la notizia. La notizia è che appunto sono iniziate le demolizioni già per questo muretto alto 90 centimetri e lungo credo una ventina di metri, in una valle dove ci sono centinaia di edifici abusivi, la demolizione si è bloccata subito per un cavillo, poi è ripartita. Sì. Ma questo muretto adesso, intanto, diciamo, il muretto non c'è più? Sì, il muretto non c'è più. In compenso, però, la città è piena di manifesti che ho fatto io, realizzando una meravigliosa foto dalle colonne del Tempio di Giunone. Sì. Dalle quali si riprende la visuale di cui godono, tra molte virgolette, i turisti, i visitatori, di un impianto di calcestruzzo, sì, di inerti, di proprietà di imprenditori di cui mi sono occupato nei miei libri di mafia ampiamente, con annesso un palazzo orrendo di 6 piani. Se mi date un'email vi mando. Sì, sì, sì, ce la mandi, poi gliela diamo. Senta, però il sindaco di Agrigento, attuale sindaco di Agrigento, dice che lui sta facendo la lotta all'abusivismo veramente, e che prima di lui non era stato abbattuto niente, neanche un muretto, che le gare d'appalto per le imprese che dovevano abbattere gli edifici abusivi andavano tutte deserte, e che adesso si è mosso qualcosa. Guardi, se Pinocchio conoscesse il sindaco di Agrigento, gli darebbe il suo naso e si monterebbe un naso normale. L'esempio è molto bello. Il sindaco di Agrigento è sotto processo perché nella qualità di sindaco di Portembello, noi abbiamo questa particolarità, si è spostato dal comune vicino, dove era sindaco fino a 2 mesi addietro, e ora è sindaco del comune più grande. La sindaco di Portembello ha consentito, con una marea di imbrogli tutti denunziati e noti, la costruzione di un palazzo di 7 piani in un'area con vincolo di idrogeologico, con vincolo idrogeologico, cioè vincolo antifrana, in un comune, Porto Empedocle, che ha subito, io ero ragazzo, uno degli alluvioni più trementi degli ultimi 100 anni in Sicilia. Questo signore, ma com'è possibile che possa fare raccontare... Com'è possibile che questo si... Mi scusi, com'è possibile che questo sindaco possa fare queste cose? E soprattutto com'è possibile che la sentenza è del 99, la sentenza di demolizione del 99. Ma quando io parlo di pupiamento... Prego, prego. Quando io parlo di pupiamento, mi riferisco a questo. Noi abbiamo una procura i cui vertici si sono insediati 8 anni addietro. Per 8 anni... hanno favorito la distruzione del territorio, hanno perso i rapporti giudiziari, non hanno fatto nulla, e abbiamo una situazione di contrasto pesantissima che regge lo sceriffo contro questi signori. Quanti sono gli edifici abusivi? Oggi si sono inventati la demolizione del muretto e dell'ovile. Quanti sarebbero gli edifici, o sono gli edifici abusivi, secondo, diciamo, le stime ufficiali, secondo le autorità stesse? Le stime ufficiali ci dicono che sono 700, ma nei... Quelli da abbattere, realtà, quelli da abbattere. Sì, sono 700, ma nel 700 abbiamo individuato come un edificio il palazzone dell'imprenditore colluso con la mafia, di cui dicevo poc'anzi, alto 7 piani, e una denuncia, ma è 7 piani, altri edifici di questo tipo, perché ovviamente l'abusivismo edilizio, che è un fenomeno che io ho fortemente combattuto da 30 anni, ma ho anche studiato, ha cause soprattutto nella inerzia delle pubbliche autorità, in primo luogo della magistratura. Repubblica faceva dei bellissimi editoriali di Giovanni Valentini, perché io avevo fornito a Valentini in una cena una sentenza di un magistrato che poi divenne famoso per altre ragioni, il famoso Cirami, quello della legge Cirami, che mi ha querelato, ho vinto pure la querela. Il famoso Cirami, quando era pretore di Agrigento, prima di fare le leggi per Berlusconi, ebbe la bella idea di scrivere che un testimone che raccontava di avere realizzato un edificio abusivo nella Valle dei Templi per conto di un importante politico aveva avuto la sensazione di costruire abusivamente. Ora, la sensazione di costruire abusivamente, questa cosa colpì fortemente il vice direttore di Repubblica dell'epoca, Giovanni Valentini. Però mi scusi un attimo, adesso ci stiamo un attimo perdendo su questo ricordo. Va bene tutto, ma mi dice una cosa, questi edifici, la maggior parte di questi edifici, no, di chi sono? Sono di povera gente o sono seconde case, villette, cose che bisognerebbe buttare giù senza pietà? Con molta chiarezza, io sono quello che più si è speso nella difesa della Valle dei Templi. Sono stato aggredito, minacciato, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono stati processi su queste vicende, li ho vinti tutti. Ma sono uno che non sconosce la realtà della mia terra, per questo sono rispettato da tutti. Noi abbiamo avuto anche la curia, cioè il vescovo, che si è fatto donare un pezzo di terreno nell'area super vincolata e ci ha costruito una chiesa abusiva. Quindi di tutto, c'è di tutto, comprese le chiese. Ma c'è di tutto, perché c'è stata la convinzione diffusa che si potesse fare quello che si voleva. Ma secondo lei adesso questi abbattimenti, queste demolizioni avverranno oppure... No, le demolizioni sono un bupiamento. Infatti il sindaco famoso, quello che fa concorrenza a Pinocchio, ha detto che lui ha a disposizione 80.000 euro. Finiscono gli 80.000 euro, il comune in dissesto, non ha più soldi. Perché per ci vogliono i soldi per fare le demolizioni, è ovvio. Ma mi scusi, siamo un comune in dissesto pure, quindi si immagino. Ma le volevo fare una domanda, mi scusi, sì. Ma la sentenza del 99 è esecutiva in realtà per tutti e 700 gli edifici, no, o è solamente la sentenza, no, allora, sul foretto? Anche qui siamo alla barzelletta pura. Noi abbiamo edifici che devono essere demoliti per sentenze della magistratura e la gran parte degli edifici che devono essere demoliti per provvedimento amministrativo. Nel nostro Stato il fatto che il comune che accerti che tu hai fatto un abuso o è la regione che accerti che hai fatto un abuso e che mette un'ordinanza esecutiva o è il giudice con una sentenza è esattamente la stessa cosa. Devo fare una pausa, torniamo tra un attimo, eh? Poi ci sentiamo anche all'800 24 00 24 con gli ascoltatori. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera cari ascoltatori, con Giuseppe Arnone, avvocato ambientalista di Agrigento, che ci stava spiegando come e perché, insomma, mi sembra di aver capito, lei è piuttosto, come dire, convinto che queste demolizioni annunciate dal sindaco di Agrigento e titolate in pompa magna sui giornali, perché parliamo di abusi sentenziati con appunto sentenze di anni e anni fa, si risolverà tutto quasi soltanto in questo muretto alto 90 centimetri, che sarebbe una cosa poco più. Guardi, io sono stato consulente al Ministero dei Lavori Pubblici, sì. Sono quello che animò la campagna di demolizioni in Italia alla fine degli anni 90. Abbiamo anche fatto delle demolizioni nella Valle dei Templi, ma sono state delle demolizioni mirate ad altissimo impatto educativo. Venne mezzo governo quando abbiamo demolito la concessionaria di una grande casa automobilistica tedesca realizzata in un immobile di un capomafia, Piscopo. Io scelsi quell'immobile, era in piedi della Valle dei Templi, era stato realizzato da un mafioso, veniva sfruttato a fini economici e vennero Bianco, ministro dell'interno, Micheli, il ministro dell'ambiente che era Bordon, cioè, perché diventava una cosa importante, non un muretto, era lo Stato che si riappropriava della legalità. Detto questo, i costi sociali ed economici di 700 demolizioni, chi li va ad affrontare? Io proposi una legge che fu approvata dal governo D'Alema e perfino dal Senato che riguardava questo tipo di abusivismo, poi si sciolse. Facciamo un crowdfunding per tirare sui soldi e demolire le case. Beh, secondo me gli abitanti della Valle dei Templi potrebbero farlo un crowdfunding, anche perché tolti gli abusi potrebbero valorizzarsi anche le loro case. Ma io ho proposto, e questa è la soluzione, che le case vengano tutte acquisite, sì, e lasciate in concessione con il pagamento di un canone. Poi il cemento ha un'età per cui muore e quindi questo problema si risolve non incentivando il nuovo abusivismo, perché il problema è non fare costruire ulteriormente. Da quando io, stiamo parlando del 1987, intrapresi la durissima battaglia come presidente della Legambiente Sicilia contro le lottizzazioni abusive nella Valle dei Templi, abbiamo vinto, non ce ne sono fatte più per una semplice ragione, perché non avendo la sanatoria e non potendo commerciare quelle case non si è più costruito, perché chi costruisce una costruzione abusiva vuole fare un guadagno economico. Quando tu gli impedisci di venderla, il guadagno viene strozzato sulla nascita. Alla base, mi sembra un bellissimo metodo questo, ma secondo lei devono essere acquisite le case o diciamo requisite, ovvero espropriate? No, no, quando parlo di acquisizione parlo da avvocato, sono un tecnico, è l'equivalente di quello che le dice requisite. Acquisite è il termine tecnico dell'abusivismo, cioè vengono prese in proprietà dello Stato gratuitamente. Ah, perfetto. Sì, ma questo è già previsto dalle nostre leggi, non è che ci stiamo inventando niente. Certo, no, ma che l'esperto sia lei non avevo dubbi, guardi. Vabbè, insomma, abbiamo capito. Condivido in pieno. Sì, abbiamo capito comunque che questa questione delle demolizioni non è affatto in via di risoluzione. Sì, è un bucamento, abbiamo fatto ridere l'Italia, i polli. No, ma abbiamo capito, Arnone. Io anzi la ringrazio per essere stato con noi, sicuramente grazie. Torneremo a parlarne. Grazie, buona serata e sicuramente torneremo a parlarne nella versione Si può fare weekend, quando ricominceremo a settembre, il sabato e la domenica mattina, perché questo qua delle demolizioni è una mia fissazione proprio. Lo so, giusto. No, ma il governo dovrebbe occuparsi anche di questo, perché no? Di trovare una soluzione a questo problema. Perché no, ma tanto sono pienamente d'accordo, è la soluzione che veniva prospettata prima mi sembra straordinaria, perché ovviamente io non ci avevo pensato. Io non lo so, però è, un, è un'idea, no? Io altre idee non ne ho sentite, sì. Se non appunto sentire i sindaci ogni tanto che giustamente si vantano, torna la legalità, buttiamo giù gli edifici abusivi, poi in realtà tutto si ferma a un muretto alto 90 centimetri, questo è, com'è che l'ha definito? Pupiamento? Un pupiamento! Fantastico. Andiamo bellissimo con Lorenzo da Brescia, buonasera. Lorenzo, ci sente? Sì, mi sente? La sento benissimo, prego, sì, tocca a lei. Vabbè, io volevo parlare ancora della strada dei siti, no? Sì. Comunque voglio sprecare anche però su quel discorso qua. Ha ragione, dovrebbe essere lo Stato che dovrebbe fare certe cose, non lasciare in mano a un comune di 2000 abitanti una cosa del genere contro una mafia. Ma qua sappiamo benissimo che c'è una collusione tremenda tra questi qua e lo Stato, quindi è inutile neanche che stiamo lì a girarci intorno, la cosa è questa, perché la gente là dice con la cultura non si mangia, punto e basta, e loro quindi sfruttano tutto e è finito lì. Io ormai non credo più a niente, a queste cose qua ormai comandano loro. No, non faccia così, però non sia così. No, non faccia così, che voleva parlare dei siti. È così, è così, perché giriamo intorno, è così. Ci parli dei siti, dei siti di incontri. Infatti, parlando dei siti, leggevo il giornale sabato o domenica, no? Sì. E devo sfatare appunto la storia delle donne, e c'è un paese proprio il mio, guarda caso, adesso dico il nome, che in siti qua la percentuale era maggiore delle donne che tradiva. Ecco perché lei sta ridendo sotto i baffi. era donna che tradiva, adesso lo dico il paese, comunque è sul giornale di me. Perché lei ha trovato la classifica, scusi, degli iscritti, ha trovato la classifica. No, non i nomi, c'era la classifica dei paesi dove le donne e gli uomini sono di più iscritti. E come si chiama il suo paese? Io non lo so, come se lei va sul giornale. No, come si chiama il suo paese, scusi Lorenzo? Il suo paese? No, non posso dirlo, dai. Come non può dirlo? Scusi, ci sta dando una notizia, ce la dia completa. Va bene, è vicino a Brescia. Se va sul giornale di Brescia, ciao, domenica la trova. Ma cosa sta succedendo in paese, però? Ci racconti un po'. Avete paura? Tutti gli uomini si guardano dicendo: e tua moglie come sta? Ma secondo me sono tutte delle puttane santificate. Ma come? Ma sì, ma comunque a parte intanto evidentemente qualcuno ci va comunque con loro, quindi non dare la responsabilità. Ma certo che ci va, però ma tornando sul discorso di prima, che tradiscono, secondo me le donne non è che tradiscono, noi uomini andiamo, facciamo il fatto e siamo a posto. Secondo me le donne, io adesso sono sposato due volte, qualcosa insomma penso di... loro hanno bisogno di emozioni, non è tanto il fatto poi se succede o non succede, quello secondo me è relativo, però le emozioni, cambiare aria, che ne so, l'appuntamento, andare a cena, emozioni nuove, le emozioni... O forse delle emozioni che noi uomini non sappiamo più darle, quindi dare loro, quindi parla forse per te, abbiamo Carlo, delle per te, scusa, è vero, ha ragione, perché siamo diventati vecchi. Sì. Ma no, esatto. Ma scusi, Lorenzo, prima mi dice che secondo lei sono tutte a pagamento, ha usato l'espressione diciamo più diretta. No, ma penso che fosse un giudizio generale sul genere femminile, non solamente su alcune lavoratrici del settore. No, sì. Io parlo proprio del paese. No, però mi volevo finire la domanda. Lorenzo, non ho capito se secondo lei, diciamo, lei è peggio quella il tradimento a pagamento, o addirittura mi sembra di capire le donne che cercano delle emozioni in realtà vanno a caccia di guai. Ma secondo me sono peggio queste qua che quelle che si fanno pagare, perché quelle che si fanno pagare si fanno, prendono i soldi ed è finita lì. Questa qua invece sono relazioni molto pericolose, perché comunque ti può rovinare una vita. Sono due cose diverse. Uno è colui che tradisce, l'altra è la donna che prende dei soldi per far tradire l'uomo, semmai è lei che sì. Ma lui sostiene che sia peggio l'uno dell'altro, capito? Sì. Altra cosa, tutti quei siti qua, il 50% poi sono tutte prostitute. Ripeto, dipende di che siti stiamo parlando. Ci sono combinazioni, capito? Fammi vedere poi. Però scusi Lorenzo, lei c'è stato su Ashley Madison, lei sa di cosa stiamo parlando, perché questo. Ascolti, ma adesso dove vive? Ma dove vive? Ma non leggi, non guarda sui giornali, ci sono Cristo della Madostra. Cosa? Scusi, non ho capito. Scusi, ma non stiamo parlando di prostituzione, stiamo parlando di un sito di incontri, che è una cosa molto diversa. Non stiamo parlando di chi va a prostitute. Ci sono sui giornali. Ormai il giornale si è trasferito sui siti. Va bene. Che ci sia la prostituzione non è esattamente una notizia, però mi scusi. Siamo a... Sì, Lorenzo, com'è? Siamo arrivati a un punto di non ritorno, credo, in questa conversazione. Io non ho capito adesso cosa c'entrano i giornali, scusi, mi dica solo questa cosa qua. Qua ci colleghiamo sempre con lo Stato mafia, la stessa cosa, sì. Nel senso... Sì, ha capito il discorso, nel senso che... Ormai non ci arriviamo più. Grazie, buona serata. No, non ci arriviamo più, infatti secondo me siamo arrivati alla frutta. Abbiamo i titoli? Sì, abbiamo i titoli della 7, ci risentiamo tra... Mettiamo un po' d'ordine, titoli, vai. Renzi rompe il silenzio e torna a tutto campo. Nel Mediterraneo salviamo vite anche se costa voti, dice al meeting di CL a Rimini. E sulle riforme, Salvini vuole bloccare l'Italia per 3 giorni, ma è 20 anni che berlusconismo ed anti-berlusconismo bloccano il paese. A Pesaro promette nel 2016 aboliremo IMU e TASI per tutti, all'Aquila manifestanti lo contestano, tensioni con la polizia e il premier cambia programma. Le opposizioni all'attacco contro Renzi, Salvini su IMU e TASI copia la Lega e Berlusconi, è ridicolo. Brunetta, Renzi oggi non ha detto una sola cosa di sinistra, anche i 5 Stelle non digeriscono la battuta del Premier sulla democrazia che non è come un telegatto. Ce lo venga a dire in Parlamento quando si vota la riforma del Senato, lancia la sfida al senatore Petrocelli. La banca centrale cinese taglia i tassi di interesse dello 0,25 e pompa sul mercato 150 miliardi di yuan, 23 miliardi di euro. Ma la manovra non ferma la caduta, Shanghai perde un altro 7,6%, mentre le piazze europee apprezzano e rimbalzano. Milano vola e guadagna quasi il 6%, Atene a parte la migliore in Europa. Migranti, emergenza umanitaria sulla rotta balcanica, l'ONU parla di 3.000 profughi al giorno in transito dalla Macedonia, l'Europa si divide, la Germania sospende Dublino e apre le frontiere a tutti i siriani, l'Ungheria erige il suo muro e anche Romania e Bulgaria rafforzano i confini. Nel Mediterraneo continuano sbarchi e morti, un 14enne somalo picchiato dagli scafisti in Libia muore dopo la traversata su un barcone. La propaganda dell'ISIS ostenta l'orrore delle sue distruzioni, diffuse sul web le immagini del tritolo che ha incenerito il tempio di Baal Shamin a Palmira in Siria, un bene dell'umanità che risaliva a 2000 anni fa, la furia jihadista si scatena anche in Libia, a Sirte dove le milizie hanno crocifisso 4 persone accusate di spionaggio. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati, buonasera di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini in collegamento telefonico e andiamo buonasera con a tutti. Michele che ci chiama dalla provincia di Cuneo, buonasera Michele. Buonasera a voi. Prego. Buonasera. Ma niente, io per Balotelli voterei come compagno ideale di camera Romeo Benetti. È andato a pescare lontano, nel tempo. Romeo Benetti. Lontano, però, vabbè. Perché proprio Romeo Benetti? Ma ex perché... calciatore della Juve, direi, fondamentalmente. No, ma era stato anche milanista. Sì, Milan, giusto. Juve, Roma, dove è andato si è fatto apprezzare, gioco rude ma corretto e serio, quindi direi che questa può essere l'ultima occasione per Balotelli di far vedere il suo valore, le sue opportunità le ha avute e ai noi un po' in parte la spaccata. Lei è milanista? No, io sono juventino, l'ho apprezzato quando è stato negli anni 70 nella Juve, è stato veramente un bel personaggio e auguro che riesca nel suo intento, perché Balotelli è anche un patrimonio del calcio italiano e un peccato che fino ad ora sia stato Romeo Benetti, mi ricordo la figurina, quello col baffo certo, il baffo è un duro però corretto e si è fatto ben volere e spero che riesca, che magari questo progetto vada in porto e che nel giro di 3 mesi Balotelli ritorni a nuova vita, magari non segnando contro la Juve, però faccia bene per ma quindi uno in stanza che ogni tanto magari gli dà anche degli sberloni, mi sembra di capire, non è che ha proprio scelto Gandhi, ha scelto Benetti, però che lo metta un po' in riga sotto il profilo del rispetto dell'avversario, del rispetto del compagno e che faccia valere queste grandi doti che ha, che però fino adesso abbiamo visto magari espresse su altri campi che non i campi di va calcio, bene, mettiamo agli atti Romeo Benetti, benissimo. Dai. Michele da provincia di Cuneo, grazie. Daniele da Bologna, grazie. Buonasera Daniele? Sì, prego. Mi sentite? Sì. Buonasera. volevo intervenire rispetto a un'intervista che avete fatto poco tempo fa a Nunzia Di Girolamo, sì, che ha concluso, diciamo, l'intervista facendo un esempio sul dicendo che, insomma, se viene preso un prete pedofilo, non è che i preti siano tutti pedofili, è uguale per quanto riguarda i politici. Sì. Ora, questo è vero, però se viene preso un politico corrotto e poi non viene allontanato dalla politica, o comunque gli viene data comunque continuamente la possibilità di fare altri danni, allora non abbiamo risolto niente. E comunque, voglio dire, il problema, allora c'è la complicità, lei dice, giustamente, cioè, a questo punto, no, diciamo che comunque il problema fondamentalmente è questo. Il signore che è intervenuto prima, da quel paese dove tradiscono tutte le donne, diceva che non crede più in niente. Alla fine, certo che diventa difficile continuare a credere nella politica e continuare a credere in questo paese quando poi alla fine vedi che non cambia mai niente. È stato il problema del funerale, l'unico che ha pagato sembra sia l'elicotterista. Questa è una cosa ridicola, ha ragione lei, è una cosa ridicola, sì sì sì, è stata tolta la patente di volo ed è una cosa francamente ridicola. Tutti dicono, beh sì, qui qualcuno, questa cosa non deve più ripetersi, ma non deve succedere neanche prima. Grazie Daniele, grazie, buona serata, buona serata. Grazie mille, buona serata. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Ma è un popolamento. E con questa citazione di Arnone, lo sceriffo di Agrigento Arnone, Giuseppe Arnone, è un pupiamento riferito agli abbattimenti, alle finte demolizioni nella Valle dei Templi. In realtà, con il padrino, stiamo per risentire l'ascoltatore che aveva chiamato ieri sera in chiusura, Pasquale da Roma, buonasera. Buonasera. Che, cioè, buonasera. Ci ha sorpreso a fine puntata dicendo: io sono uno di quelli che ha suonato al funerale di Casa Monica, un orchestrale. Che ha suonato il padrino. Quella è il giorno, quella mattina. E una cosa di cui nessuno aveva avvertito, perché lei ci ha detto: dovevamo andare a fare un'altra cosa in realtà. Cosa vi hanno detto? Guardi, ho una certa età, suono da quando sono ragazzino, ho fatto direi decine e decine di funerali. Si fa una cosa semplice: si va alla casa del defunto, si accompagna in chiesa suonando marce funebri o diciamo inni religiosi, musiche di questo tipo. E noi quella mattina ci siamo trovati davanti a persone che invece ci hanno chiesto di suonare altre cose per le quali non eravamo pronti. Lei non sapeva chi fosse il morto? No, io ho intuito che fosse una persona piuttosto importante dalla gran massa di gente che si è affollata lì davanti, certo, alla casa. E dalla paga forse, o no? No, è che la ritaglia. La paga è uno standard, quello sempre uguale, eh? No, guardi, le bande sono associazioni amatoriali, non si va nelle bande. Le bande si chiamano bande, proprio sono bande. Cioè lei non ha preso neanche una lira, o poco? Guardi, io ho preso il rimborso della benzina. Solo quello? Sì. Se avanza qualche euro mi ci pago la colazione, tutto qui. Ma mi scusi, ma come funziona il reclutamento? Quindi in realtà non è che venite presi singolarmente, qualcuno ha chiesto alla sua banda. Era una banda quella, di Pasquale. Giusto? Le spiego. Prego. Il funerale è avvenuto in un periodo piuttosto morto, no? Molta gente sta in vacanza. Allora, si è fatta una banda raccogliticcia, come dire, cioè il responsabile ha chiamato il giorno, a me mi hanno contattato, io stavo in macchina, Pasquale, sei disposto domattina a suonare per un funerale, sei libero? Dico sì, sto libero, sto in vacanza, e niente, mi hanno dato l'orario e il luogo dove presentarmi alle 9:30, non mi ricordo, e lì ho incontrato gli altri colleghi. Ma questo di solito è il reclutamento per un lavoro, perché o lei già suona per la banda, oppure se qualcuno la chiama gli dice lei è libero, uno è libero dicendo sì, quanti soldi ci sono, no, immagino, no, perché no, uno il 15 d'agosto torna a Roma per suonare. No, ma io stavo già in zona, no? Io non stavo fuori. Lui era a Roma. Senta, no, ma il modo in cui le hanno chiesto invece di eseguire il padrino è stato un modo garbato oppure c'è stato... Guardi, io non lo so, perché a me è venuto, diciamo, chiamiamolo il maestro della banda, il direttore della banda, mi ha detto: guarda che qui non vogliono le marce funebri, vogliono che suoniamo il padrino, My Way e Paradise. Perché erano brani musicali che il defunto prediligeva. E lì non le è venuto già il primo sospetto, forse? No, io poi... Più da di un come sospetto. Da come era organizzato il funerale, ho capito che si trattava della comunità rom o sinti, adesso non so, perché ho già suonato varie volte nei funerali di questa comunità, io so come funziona. Questo è interessante, perché ieri sera qualcuno, ma anche sui giornali in questione, ha sostenuto che questo funerale era in tutto e per tutto un funerale come tanti altri, come ogni volta che muore un rom, il funerale è così. È vero oppure c'era il padrino, per esempio? È la prima volta? Ascolti, sì. È stato un funerale normalissimo. No, scusi però, un funerale normalissimo. Cioè, lei ad altri funerali rom ha suonato il padrino? No, ad altri funerali in Roma magari ho dovuto suonare una musica che non c'entrava niente, perché il defunto amava tanto quel brano. Ho capito, allora, però in questo caso amava il padrino, no? E quindi... Ho capito, ma quello è un brano, per noi è un brano musicale come un altro. Sì, da musicista, ma per quello che rappresenta, Carlo. Poi naturalmente, una volta che io ho scoperto chi era, cioè il nome, quando ho saputo che si trattava di Casamonica, è un nome conosciuto qui a Roma, no? Si sa. Ma ha avuto la tentazione di andarsene? No. Guardi, no, io mi ero stancato, perché è stato un funerale piuttosto complicato, complesso, tutto lì. Perché noi abbiamo... Perché complesso? Le spiego, noi ci siamo trovati davanti alla casa da dove usciva il defunto. E lì l'abbiamo accompagnato per qualche centinaio di metri, suonando appunto. Noi ci hanno distribuito il libretto con le marce funebri da suonare, ma non l'abbiamo potuto usare, perché abbiamo dovuto suonare tutte musiche che abbiamo dovuto imparare poi lì per lì in pochi minuti, perché chi l'aveva mai suonato? Io non l'avevo mai suonata. E chi le insegnava? Nel senso che c'è qualcuno che conosceva il padrino che ha insegnato agli altri? Sì, perché poi c'era qualcuno che l'ha intonata, dice che note sono, ci siamo informati, in pochi minuti abbiamo messo su questi tre brani, un po' così, un po' traballati. Ma quanti eravate, mi scusi? Potevamo essere una venticinquina, più o meno. Una venticinquina. Lei che strumento suona? Non glielo dico. Ah, no, giusto, perché giusto, le chiedo scusa. No, è vero, ce l'aveva detto anche ieri, ha ragione. Sono individuabile, capisce? No, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ha avuto paura in qualche momento che qualcuno potesse infastidirla, visto che si trattava del funerale di un boss? No, sono gentilissimi, per carità, assolutamente. Ma c'erano i vigili urbani a un certo punto a dirigere il traffico? Sì. Guardi, purtroppo, ecco, questa è una cosa. Davanti alla casa del defunto si è ammassata tantissima gente. Queste persone hanno posteggiato un po' a casaccio, come lei può immaginare. Sì. E lì si è creato un po' di ingorgo proprio davanti alla casa, nel luogo proprio dove ci siamo. E poi abbiamo accompagnato, diciamo, questa carrozza per qualche centinaio di metri, poi siamo scappati con le nostre auto al Don Bosco, lì, per aspettare il corteo che arrivava, no? Abbiamo dovuto aspettare almeno una mezz'oretta, non mi ricordo, ma forse... Ma e voi avete accompagnato anche il feretro al Camposanto? E poi sono arrivati, poi però al Camposanto con un'auto normale, la carrozza si è fermata lì, insomma. Sì, abbiamo preceduto tutti al Camposanto e abbiamo risuonato varie volte questi brani musicali. Quello che mi preme sottolineare è che il funerale è stato in tutto e per tutto simile ad altri funerali nei quali ho suonato, sempre di questa comunità, e il copione è sempre quello. Questo è stato un funerale, diciamo, elevato al quadrato, diciamo, come quantità. Non solo come quantità, nel senso che comunque i petali buttati da un elicottero, ci hanno spiegato ieri che vengono buttati i petali, però di solito vengono buttati a mano. Se uno invece convince un elicotterista è un po' diverso. Quello è un fatto solo di denaro, cioè è stato speso molto di più per un funerale di una persona particolarmente importante. Però scusi, lei adesso vuole rimanere anonimo perché ha paura o perché teme che qualcuno possa dire... Io non ho paura, soltanto non vorrei, perché poi i colleghi, poi, a parte che se qualcuno mi sta ascoltando mi riconosce dal modo di parlare. Immagino, perché la lobby delle bande è cattiva. Sì, noi siamo pochi, alla fine siamo i musicisti, voglio dire... Non siamo tanti. No, ma poi secondo me un musicista, un'orchestra non ha nessuna responsabilità. Lei è stato chiamato a un funerale a suonare, ha suonato. Io ho suonato anche perché poi io sono arrivato ignaro di tutto, non sapevo neanche. Io mi sono accorto dai primi movimenti che si trattava di un funerale rom, perché sono sempre loro spargono la strada di fiori. E il corteo cammina proprio su una strada lastricata di fiori. Ora, normalmente il tragitto dall'abitazione alla chiesa sono poche centinaia di metri, normalmente. Qui sono stati chilometri di fiori gettati per strada. Però se lei avesse saputo di chi si trattava, avrebbe preferito non andare? No, io sarei andato in ogni caso. Quindi secondo lei il funerale così come si è svolto non c'era nessun messaggio alla città sul fatto del potere di Casamonica? Perché... No. Guardi, è stato soltanto di cattivo gusto, cioè sì. È un funerale che io non approvo nelle modalità, capisce? Troppa caciara, troppo chiasso, troppo... esagerazioni, cioè esagerato, io non ci trovo nulla di... È il tipico funerale di quella comunità, loro fanno così. Però i manifesti hai conquistato Roma... Quelli sono stati di cattivo gusto, se io fossi stato il prete l'avrei fatti togliere tutto lì. E si è creato un macello perché essendo tantissime persone, le macchine erano tante, lì davanti ognuno ha posteggiato un po' dove ha potuto, si è creato... C'erano diversi pregiudicati usciti dagli arresti domiciliari apposta per venire al funerale, cioè intorno a lei c'era gente di un certo tipo. Quella mattina io non lo potevo sapere, sì. Poi voglio dire, io suono. Non spetta a me decidere chi è pregiudicato e chi non lo è, insomma. Nessuno spari sul pianista. No, ma non ce l'hanno scritto in fronte che sono pregiudicati oppure no. No, ma io per questo certo. Le ho chiesto adesso a ex post, sapendo quello che è stato, se lo rifarebbe oppure no. No, ma a me se mi chiamano a suonare io vado, perché io faccio quello. L'ho fatto anche come mestiere quando ero giovane, adesso lo faccio così in maniera amatoriale, insomma. Anzi, adesso forse bisogna imparare a suonare almeno la musica del Padrino, perché ieri qualcuno a Radio 24 ci ha mandato dei messaggini dicendo che peraltro l'orchestra era molto stonata e lei direi che ieri ce l'ha pure confermato. Sì, no, ma era stonatissima, no, stonata, anche peggio, insomma, non si poteva proprio sentire, però voglio dire... No. Questo non è buono per un morto. Lo so, però ecco, forse la prossima volta faremo delle prove preventive e prepareremo un padrino coi fiocchi. Ma speriamo no, però padrino, scusi, il padrino, speriamo... Pasquale, adesso io capisco tutto. Capisco tutto da musicista, però al funerale di un boss mafioso suonare il padrino non può essere una cosa che lei fa tanto tranquillamente, oppure... Ma è un bucamento. Guardi, io quando sono andato lì quella mattina non sapevo che avrei dovuto suonare il padrino. No, ho capito, questo l'abbiamo capito. Però adesso che questa cosa è successa, abbiamo capito che il funerale era di Vittorio Casamonica, del membro di questo clan che si è macchiato di 115 arresti in 5 anni, truffe, estorsioni, spaccio, eccetera, eccetera. Suonare il padrino a un funerale di uno così, lo rifarebbe o no? Ma guardi, adesso a posteriori, dopo tutto quello che è successo, avrei qualche problema. Sì, sinceramente. Questo me l'aspettavo che lo dicesse, perché mi sembra normale. Cioè, lei si è posto così normalmente come un musicista che è stato chiamato a suonare e quindi non ha nessuna colpa. Però adesso, sapendo quello che è successo, giustamente. Da adesso certamente avrei qualche problema. Adesso quando mi chiedono al funerale dico: ma che fosse è morto un boss, lo chiederò preventivamente tutte le volte, ma voglio dire. Capisce? Ma non glielo diranno mica, cioè, se dovesse ricapitare succederà esattamente come questa volta. Però abbiamo scoperto come funziona il mondo delle bande e delle orchestre. Esatto, questo è bello. La vera domanda è se e se Nino Rota prenderà, anzi gli eredi di Nino Rota prenderanno la SIAE per questo funerale. Ma non lo so, guardi, questo avete io fatto non il borderò? Si compila, guardi, il borderò? Sì, sì, in genere si fa, come no, certo. Ah, perfetto. Si fa sempre, perché è obbligatorio. Ottimo. Altrimenti si rischiano multe, da quello che so. Io certo. Non me ne interesso, però no, sarebbe bello che in tutto questo la multa arrivasse dalla SIAE, ma non solo, ma casa Monica. Lei ci conferma che non è stato fatto un pagamento extra, visto che si trattava di un personaggio famoso, potente, in questo modo non avete preso una lira lo stesso, i buoni benzina. Guardi, io di queste cose non mi interesso, io sì. Vado a suonare per il piacere di farlo. No, no, però poi ci conferma che non l'hanno pagata, e quindi insomma uno poteva immaginare che al funerale del boss pagavano di più, invece no. Ma non lo so, io questo non lo posso sapere, dovrei chiamare il responsabile, ma che ti hanno dato più soldi del solito, ma io non lo faccio, capisce? No, no, capito, a lei non li hanno dati poi, quindi figuriamoci. Grazie Pasquale. Non glielo direbbe. Buona serata. Grazie mille, buona serata, grazie mille per aver chiamato. Buonasera. Carlo, eccoci. È molto bella la storia del padrino. È finita, Carlo. Sì, lo so che è finita. Detta così mi viene anche dalla tristezza. È finita la puntata. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti, buona serata. Ci sentiamo domani. Ciao. Ma è un bucamento.